Don Giulio. Attento, CR7. E io già sono sempre quasi. Cosa fa? Ah, no, io sto dicendo quello che penso ed è giusto quello che ho detto. Ed è la realtà. Non posso io darti a te un segnale con un baracchino, puoi guardare una radio professionale e dartelo lo stesso. È completamente diverso. Io penso che sia più affidabile. Allora, tu dammi il segnale col 680 e poi me lo dai col baracchino a vedere se qual è quello giusto secondo te. Per carità, sono eccessi. Allora, guarda, mentre stavi parlando io ho commutato. Allora, col 440 mi arrivi segnale 8, che è quello tuo quando si è sganciato, normale, ok? Penso che stia usando il watt del baracchino, non lo so. Comunque, Santiago 8 ti arriva. Sul baracchino stai arrivando Santiago 5. Secondo te io ho ragione o torto? E la realtà è quella. Oh, guarda che Santiago 5 arriva anche a lui adesso, la verità. Nell'87, quindi a un certo punto, ma se non togli ESO, cambia diversamente, lo sai anche tu, anche col tempo lo puoi dire, cambia tutto in ricezione, il telefono di scossessore, lo sappiamo che per lui è una cosa diversa, sia per il telefono che in ricezione, specialmente in FM che è il doppio, quindi cioè io mi sono trovato in pratica e voi smetto il wattmetro cliccato regolato con qualcosa, un king, tutto lì, tutti e due, il primo 1000 e 500, tutto lì, poi magari sbaglierò, questo non lo so, ma comunque sia, mi sono trovato così. Antone, io voglio fare il zaino, cioè tu dai quello che leggi, non è che stai sbagliando. Se quello che leggi è così, tu dici quello che leggi, giustamente, però non facciamo i paragoni da uno smitter di un professionale come il Kevo di 440 in questo caso, che ho io, e il baracchino, è una cosa completamente diversa, vedi che l'hai detto. Poi, la taratura di una radio, di un qualsiasi ricetrasmettitore, non si fa col cacciavite, ci vuole lo strumento per poterlo fare. C'è una procedura per fare tarature allo smitter, capito? Perché ne ho già sentito parlare di queste cose, e non io, gente che ripara radio, che è più un professionista, diciamo, anche hobbista ma professionista, sai di che sto parlando. Tutte le volte che le portano una radio di queste tipo simili a queste, la prima cosa che dice lo smitter hai toccato. Perché se tu sollevi lo smitter e te lo tari col mio segnale, non è la taratura esatta. C'è da fare una procedura che è molto particolare per fare la taratura dello smitter, capito? Questo ti sto dicendo. Poi giustamente quello che leggi tu dici, però la professionalità di una radio, chiamiamola HF, da un baracchino, cambia, ma cambia per forza, cambia. Io ti do il segnale reale, giusto, capito? Ho capito, ma io non mi faccio il tempo adesso, scusa, a un certo punto. Io ho fatto la taratura, in parte che il segnale è tuo, tutto lì, in gestione con quello che ho io, con l'altro cassette, a un certo punto, quindi sì, 9.30, perché è lo zero, il coso va lì, abbiamo fatto la prova l'altro giorno, se ti ricordi bene, quindi a un certo punto, va bene così. Però il primo è una cosa diversa, invece l'autoprosetto c'è una tal cosa, tutto lì. Antone, stiamo dicendo la stessa cosa, non mi vuoi capire. Sul mio baracchino io commuto, sei 9 più 30 perché si è attaccato, sei sullo zero, ok? Non va di più. Allora io ti do fondo scala. Col 4.40, giusto, reale, sei 9.55, quindi vedi bene che è un'altra gubba. Non so se mi sto spiegando, Franco, tu mi hai capito quello che sto dicendo? Vabbè, io sto pompando, però tieni conto quello qua. Appunto, il tuo segnale reale col 4.40, liscio, sei 9.40, 9.45 più o meno, ok? Adesso sei 9.55, cioè sei quasi sulla scala del dB, perché sei agganciato. Mi vuoi capire? Oh, sul baracchino sei 9 più 30, capito? Ci sono 30 dB di differenza, 30 punti S di differenza, chiamali come vuoi, cioè c'è una differenza enorme. Perché? Perché il baracchino quella scala c'ha, il 4.40 no, 3, essere a fondo scala, proprio sull'ultima scala del DB, sulla linea bianca dello 0 del 6, devi essere sotto casa, allora arrivi a fondo scala. Però così è il segnale reale, ti posso dire anche sganciato, è agganciato quanto aumenta, ma col baracchino non lo puoi fare una comparazione del genere, mi capisci Antonio, questo ti sto dicendo. Stai dicendo la stessa cosa che sto dicendo io, Franco. Aspetta un secondo fa, ti lancio subito. Allora, sentiti come quella sera lì abbiamo fatto le prove, io ho fatto la regolazione dello Smith, te lo ricordi, sì. In pratica, mi sono regolato lo Smith, ti ricordi di questa parte qua. Allora, in pratica, ho regolato su di te, più che altro. Quindi, in pratica, se quella persona là parlava sempre con tribuni o del genere, a me mi risulta questo non è lì, ho sbagliato io a un certo punto fare la regolazione, oppure non lo so, di cosa è quello? Tu stai dicendo la stessa cosa, non mi vuoi capire, va bene così, la regolazione che hai fatto sul mio segnale va bene così, Marino ti arriva 9.25 col baracchino, a me mi arriva 9 col 4.40, ok, e col baracchino che io non ho toccato niente, con l'Elbes che è originale, come è uscito, mi arriva 9 lo stesso, perché? Perché Antonè? Cioè, certo non mi vuoi capire, i segnali che io ricevo col baracchino bassi, a prescindere da te, da Roberto, da Fabrizio quando è in radio, vi siete vicini, mi arrivate con segnali molto forti, ok? E allora non c'è paragone, perché il fondo scala lo prende anche il baracchino, ma Marino a me mi arriva 9 col 4.40 e 9 mi arriva col baracchino, cosa vuol dire? Cosa vuol dire Antonè? Vuol dire che c'è qualcosa che non va bene, però stiamo dicendo la stessa cosa, la comparazione non lo puoi fare col baracchino e una radio professionale, è totalmente diverso. Franco, sbaglio o sto dicendo la pura verità? Aspetta, frena. Il baracchino che sto usando in pratica Marino è quello che avevo io, ti ricordi quello con l'eco? È uguale, cioè in pratica è quello mio, hai capito? Il discorso è quello lì. In pratica a me mi appare lo stesso segnale, pare uguale, anche se i watt sono diversi. Quello ti voglio far capire qua, tutto lì. Antonè, mica non c'ho buddontomi, ti ho detto io ho capito, ma non è come stai dicendo tu, a me Marino mi arriva con due segnali uguali, sia col 4.40 che col baracchino, a te non ti arriva uguale, cazzo, ma l'italiano lo vuoi capire sì o no? Poi che cosa sto usando? A me non mi interessa, non puoi usare qualsiasi cosa, quello è il segnale che mi dà il K e quello è il segnale che mi dà il baracchino, mentre tu le dai 25 dB in più sul baracchino, capisci? Se tu attacchi il quadribanda ti accorgi che è come sto dicendo io, perché se arriva 9 a me, quella là che è una radio digitale professionale, 9 ti arriva anche a te, sono sicuro al 100%, capito? Vabbè, il quadribanda è stato, la verità, comunque sia, comunque stiamo dando il segnale, solamente solo con l'87 e basta, tutto lì, il segnale, non per l'altro. Il quadribanda è spento. E ehi, va bene che va bene. Con l'87, siccome ce l'ho anche io, il segnale non è affidabile. Punto e basta. Franco, riprendi. Guarda, io ti giuro che non vedo la luce di domani. Io non ho mai toccato lo smitter di questa radio che io. Mai. Mai. Di quelle che ho avuto, mai. Mai. Se dovessi ascoltarmi, che si ricorda, proprio una volta me lo sono fatto tale da Fabrizio, perché vedevo dei segnali allucinanti, soprattutto quello tuo Antonio, che andava proprio sopra il DB, ed era toccato, l'avevo comprato usato, per carità, quindi non sapevo, però mi sono accorto subito, dal 4.40 per lì al 6.80 che avevo dato a Franco, Franco l'ha dato a Cosio, a, a Gio Maria ha dato a Capri 2, poi l'ha rivenduta a me, è tornata a questa radio e faceva schifo, credete mi faceva schifo, tutta Ducada, a destra, a sinistra, bagnata da risorghi, capite, sono riuscito a farmi regolare almeno lo smitter, è la prima occasione l'ho venduta perché non si può toccare una radio del genere, non è che siamo tecnici, per poter mettere le mani dentro queste radio, o è la strumentazione, sai cosa tocchi e cosa stai facendo, oppure non si possono toccare. È vero che io mi sono sempre tirato sull'LC, ma è l'unica cosa che so fare. Non ci ho mai messo le mani a livello di cambiare o di fare modifiche, eccetera, perché non si possono fare se non c'è gli strumenti adatti, capito? Solo quello posso fare io. L'ho fatto a me, l'ho fatto ad altri. Dare i picchi positivi, finito, ma è un trimerino, so qual è, lo tocchi e vai. Ma non si tocca lo smith, non si toccano altre cose, perché altrimenti la radio la manda in affanculo. Sì, ho capito, comunque sia. Vabbè, non c'è problema. Subito è successo niente, dico che ci sempre per 5-10 di vino, ci mancherebbe, guarda. Sì, ma adesso una domanda te la posso fare, perché c'è legna attaccato, a cosa serve? Ma quando funzionare, perché la parete non funziona. Ah, così, boh, perché sei abbastanza saturo qua. Avanti, fra. Aspetta, la completo subito, 2 minuti. Ecco, adesso va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Oh, vabbè, dai. Ok, ciao Giulio, buonasera. Ciao Claudio, abbassa, abbassa la potenza e fai di schifo quella radio. Ciao Andrea, fai quello che ti piace, non me ne frega niente. Ciao Franco, dimmi. Ma anche la potenza della radio deve abbassare. L'altro giorno l'ha regolata e andava bene, adesso l'ha toccata. Andrea, abbassa la potenza della radio. Aspetta che mi hai avuto una mazzotta in casa, ma ce la fai? Fammi smettere le mazzotte, poi esco bene. Guardate l'opera, ci sono tanti tutti, c'erano le mazzotti, la birra, quello che è, stavo uscendo male. Però fa la barra con la PC, il microfono. Fai quello che ti piace, adesso per me va sempre bene. Però ripeto, stai dicendo malissimo le radio. Avanti, GR7. Mamma mia, GR7. Ah, buono è vero. Tu dimmi che ci ti piace. Manca la rifresa, manca GR7, mi, due berette lo Genoa, rendisi in genesoli interissimi, che hanno vinto lo derby. No, a parte quello, io sono sempre di quell'idea, fare fuori l'allenatore e basta, comunque mai si vegliano, vedranno loro cosa devono fare, cambiamo argomento, perché a Franco non gli interessa la, il calcio, Antonello tanto meno, dunque, avanti fra. Allora, credo che sul il calcio, che non ti lascio sentire le vostre cose di calcio, fate la bravo. Vabbè, la visione a 39 canali, se non ti interessa un calcio, mi. Genio, genio. Ciao, oggi è la fase di tutto, che stai uscendo male. Eugenio. La fase di tutto, Eugenio, butta via tutto a mare. Perché ci vuole buttare tutto? No, hanno parlato in due con Franco, sicuramente per quello che sono accavallati. Così non ti interessa un calcio? Non ti interessa la balla a canestro? Il ciclismo. No, ah, Eugenio Tricello, fra. Ti non interessa un calcio, adesso ti interessa il ciclismo. Io neanche il ciclismo guardo, Eugenio. Il motociclismo, il Gran Premio e il calcio, basta. Va bene, a tratto, va, ciao che sono arrivato, devo scendere un attimo, va, ciao, dopo. Ehi, avanti Antonè. Aspetta, devo una mazzotta e poi arrivo, così mi senti meglio, ti amplificato, è più chiaro. E tu hai mangiato il pericolo? Appunto per questo. Arrivo subito, 2 minuti che vado al circolo che c'è, capito, dei ciclisti. Finiscila di bere, stai dove sei, dice Maria Garaga. Avanti Giulio. Ok, no, ma sta scherzando, perché l'altro giorno abbiamo detto mettici un po' di lavastrucci o qualcosa del genere sul microfono. dopo, che uscite bene. Tutto è claro, l'altro giorno. Si è scaldata la radio. Io. Quando ho abbassato un molto. Non ci sono niente. Era ma tutto me l'hai detto tu. No, te l'ho detto Franco Del Monte. E ora? Radio che avevo abbassato e riusciva benissimo. E invece adesso è tornato punto e a capo e poi anche piccola. Avanti Franco. Non ha detto che l'ha giudito io, mi lascio la battuta, lasciati. Veramente gli ha detto Franco Del Monte, non io. Io vi permetto di invitare nessuno ad andare a bere. Poi ognuno fa quello che le piace. Giovane, e noi giovani Antonio fa più di 50 anni. 57 anni per esattezza. Infatti ho goto, ma giovane canta a me, 57 anni va a fra. Secondo te? Sono a posto, il discorso è quello. Non ho bisogno di consigli di nessuno. Comunque sia, non fate niente di male, grazie a Dio. Quindi, se non me ne sei ricordato, no, giusto? A un certo punto quando uno è non se ne ricorda, quindi a un certo punto. Vabbè, pazienza, noi siamo passati per questa volta. Cosa vuol dire che io? Adesso purtroppo devo andare da Giampiero a tenere a lui e mi tocca purtroppo altro un po' sopra quella domandata, quindi tocca a me, sono il dottore, capito? Se mi trovano in quelle condizioni non sai cosa mi fanno, mi fanno un nuovo mi fanno, mi trovano il dottore e me la mettono dietro, quindi a un certo punto bisogna essere vigili sempre, purtroppo è così. A volte si scherza quello che è, scherza anch'io, faccio finta di essere quello che sono, invece non lo è. Col dottore non si scherza col giudice. Quindi adesso vado a fare pulizia, cioè a pulire mio fratello, a tenerlo, poi per stare a casa e poi, boh, non lo so, adesso vediamo. Allora, ma non ci faccio che sei cotto, non faccio proprio che hai sentito a me dicendo che una cosa del genere. Si è scherzato l'altro giorno e qualcuno ha detto, non io, perché io mi ricordo anche quello che ho fatto 10 anni fa, capito? Qualcuno ha detto prenditi una mazzotti che ti si adisce la gola, e Giulio ha detto mettilo dentro la radio che fa più effetto, ma io non ho detto assolutamente niente, comunque manda le ciance. Stai sereno e tranquillo, ok? Avanti Giulio. Ok, ma devi dire se ti stai offendendo o altro è, dai, che stava scherzando, e già lo sai benissimo. Ti permettiamo di fare una battutina perché so che tu sei un amico e le battute scherzose le accetti. Se poi non è così, allora scusa e non le facciamo più. Va bene, Antonè? No, non è per quello, fregate, non è per quello. Ci sono altre cose in ballo, capito? I paletti e serpenti dicevano quello, capito? Non vedo l'ora di capettarli e buttarli fuori e avere tutto loro, tutto lì. Quindi a volte magari dico, Antonello parla baracchino, basta ascoltare quello che dice lui, eccetera, eccetera, capito? Magari io dico una cosa scherzando, cazzo se la pigliamo per davvero. Tutto lì. No, se è notato bene, non mi sono offeso, è stato meno con gli altri. Quindi se mi fosse offeso io non avrei neanche parlato a Claudio, e invece lo parlo a Claudio. Così anche gli altri. Il problema è che purtroppo ho avuto dei problemi che qui è capito qua sotto, e quindi a un certo punto devo stare molto attento a ciò che si dice, capito? Tutto lì, perché non dovevo mettermela di incappettarmi, ha capito Claudio, di prendermi da tutt'ore, capito? E avere tutta la persona, tutto lì, Claudio già mi ha capito. Ok, allora vuol dire che sono l'oscuro della conoscenza del particolare, dunque non metto lingua. No, io pensavo che per fatto. d'orchestra, che poi Marco che Troice si è sempre cotto, fatta risponderle. No, ma non c'è niente, quello, sto scherzando Marco, lascia perdere, ma non è quello il problema è la famiglia, hai capito, mia sorella, là. Siete solo durati, ho capito altrimenti, ho capito perfettamente. Lo sai, ci conosciamo da una vita, non ci siamo mai, non abbiamo mai avuto problemi, siamo stati sempre vicini a casa, non lo so io cosa, qual è il problema, è per quello che non conviene neanche più scherzare, perché magari si abbiglia davvero, siccome ti conosco, perciò non è quello il problema, vabbè. Franco, allora messo a posto lei questo microfono? Marco. Vabbè, a me mi ha telefonato Pino, ah vabbè già c'era anche tu, venica mattina, che sono salito a prendere la carne, sono passato a casa per fare delle prove e poi sono andato via, infatti ieri sera ero ancora in campagna, però non è riuscito a mettere a posto l'altro, l'altro non è riuscito a mettere a posto, ne ha solo, perché ne ha tre, solo due è riuscito a mettere a posto, l'altro lo metterà a posto comunque, ma con gli altri due c'è una favola, molto bene, e i microfoni sono così, io ne ho giù quattro, vabbè uno lo uso con l'adattatore, il tema più tre perché non c'è la connessione diversa, non gliela voglio cambiare, capito? Perché c'è la connessione del Cobra di Massimiliano, volevo usare lui appena a posto, userà quello con il tema più tre, quindi la connessione l'ho lasciata così, ma gli altri funzionano perfettamente. Avanti Giulio. Ok, va bene, parliamo anche di cose tecniche per la trasmissione, se stiamo bene ugualmente, sì, no, ritornando al discorso che ha fatto Antonello, quello no, non si tocca, la famiglia non si deve mai toccare, poi non bisogna mai offendere nessuno, si mantenerebbe alto, vuol vedere che qualcuno ha fatto la battuta iniziandosi nelle cose personali, così non va bene, è la maniera più assurda. Va bene, dai, vediamo forse può entrare qualcuno, ad esempio Franco di Del Monte Basso, oppure Gianni dalla stazione, Gianni doppio zoom, niente, ci siete, sì o no? 1, 2, 3, 5 secondi di bianco per vedere se ci siete. Presente, buonasera. Ciao, avanti, visto che sei arrivato ci salutiamo e ti facciamo fare il giro dei saluti, vai. Stavo ascoltando un po' prima di entrare e non è un incontro un po' che ci fa. Oggi per me è l'ultima giornata che mi sentite di sera, perché poi rientro al lavoro, finito i figli, rientro al lavoro e la sera lavoro sempre fino alle 9. Via da te Gianni, via da te. Ui. Almeno la sera o almeno la mattina avrei voluto impegnarla diversamente. Invece mi gioco vendi un culo, detto in parole povere, fa nulla. Vabbè dai, non mi posso lamentare. Ciao, buonasera, ben sentito. Avanti Franco. Non stai uscendo Franco. Franco, non stai uscendo. Ma io l'attacco allo giro 80 l'ha fatti buona un'ora che va da chi, le prove le abbiamo già fatte, aiuto. No, ciao, c'è che tu hai. Già, non vanno con tu. Sì, dopo c'è ciò da fare. Quando si trasferisce in campagna si fa un piccello, si zappetta un piccello, come pesce matti, là. Sei secco tu, ti mostro la fattura, te la mando su WhatsApp, eh? Tre bettumiere da 7 metri cubi, piazzale, tutta cemento. Ah, hai fatto rubare. Allora, devo zappare, oggi zappa nuda io. Io ve lo dico faccio. Ve lo dico faccio. 7x3, 21. 21 metri cubi ci metto in mano. Tutto piazzale, tutto cemento. La terra è sciocca, dall'altra parte non si vede, manco l'erba è vero quando cresce, l'importante è che veda il pulito a casa. Sì, ma un piccello per casa, un piccello per vendere, un piccello per casa, Ah già, io non sono buono a fare l'ortolano, non me la frutta nuda, ho sempre comprato la verdura, la frutta e continuerò a fare, non me la frega niente. l'altro giorno c'era un signore vicino, mi ha detto ma gli alberi degli olive che ce ne sono 6 o 7, sono molto belli. Mi ha detto se glieli pulisco, glieli porto, guarda, ti faccio le chiavi del cancello, entra, pulisci, miglia della riva, chiama lo scavatore, miglia di raibolo, buttate il filo a casa tua, a me non ha funzionato a me. Non lo so come funziona, non me ne intendo io, non me ne intendo. Lui mi ha detto che viene a pulirlo, ho detto perfetto, grandissima cosa, vieni pulisciti, poi quando vanno le olive, miglia di burro arriva, ha tradito, buon caldissimo burro, hai burro, cuscino lo reggo nel manco, vai giù. Ok. Titolo di curiosità, Claudio, visto che hai parlato di cemento armato, cioè di calcestruzzo, quanto costa oggi il calcestruzzo a metro cubo? Lo sai, io l'avevo pagato a 90 lira al metro cubo quando ho costruito la casa. Oggi cosa costa? Una betumiera piccola, che praticamente sono da 7 e da 9 metri cubi, quella da 7 costa 650 euro. Da 7, 650 euro, praticamente intorno ai 100 euro al metro cubo, praticamente. No, io l'avevo pagato 90.000 quando avevo costruito la casa, tanti anni fa, no? 90.000 lire, allora c'era la lira, al metro cubo il calcestruzzo per, appunto per il gettito sui solai, eccetera, no? Quello lì. Poi avevo fatto nella nostra Venezia un muro, una parete intera, tutta in calcestruzzo, per rinforzare praticamente l'aderenza nella casa che c'era già costruita di questo che abita qui a fianco a me, per convenienza, o meglio per sicurezza, io ho voluto fare una gettata di cemento armato per tutta la parete, per 2,50 più o meno di altezza, dai. Va bene, va bene, andate bene. Vediamo Antonello, Antonello ci sei ancora, sì? No, deve essere sceso da Giampiero giù, che tu c'è il fratello giù, deve scendere. Giulio, un patrimonio ci vuole, 7x3, 21, 500 euro di rete, 3x8, quindi 3 giornate, 80, vabbè, 3x8, 24. Lascia perdere i muratori, lascia perdere. A me lo dici qua, guarda che io le spese con i muratori le ho fatti tanti anni fa, dunque, per questo ho detto, guarda che io ho speso 100 milioni contante, uno in alto all'altro, tanto più l'avevo fatto proprio senza aver mai chiesto un centesimo di meglio una mila, perché oggi ci sono i centesimi, allora prima c'erano le lire, senza aver chiesto mai una mila, nemmeno di sovvenzionamento alla banca. Io facevo lavorando e facendo andare avanti la casa e pagavo tutto il contante, per cui da quel lato lì sono stato super tranquillo, non mi sono indebitato con nessuno. Ma che sai come ho facendo la casa, e non è mai per altre cose, io ho sempre contato con prato in contante, anche il materiale, quando lavoravo sempre in contante, mai ho comprato niente di niente a rate o a debito come hanno fatto tante persone, e dopo hanno fatto anche gli imbecilli e hanno anche bruciato certi fondi tuoi. Infatti a me quando andavo a comprare il materiale, quasi mi mettevano il tappeto per terra per entrare, di quanto ero prestato, Marco, o Claudio, senza nessuna presunzione, sia ben chiaro, tanto non avevo bisogno di vantarmi, adesso di 77 anni quasi, figurati un po'. Va bene, dai, riprendi e fai girare tu. Guarda, io prendo tutto da Dematis, vado, ordino, pago e arriviamo a toccare. Quindi, no, problemi non ce ne so, ma 100 si è ancora basso, vabbè, tanti anni fa, qua abbiamo superato già 250, lascia aperto, e tutti i biliardi da ruoto, quanti giri di da barattolo, ta, banca, e che banca, banca, Avanti, Gianni, fai girare per Franco, va. Avanti, Franco. Tu stai facendo la pelle. Tu vedi tu, capitalisti, e così offendi, eh. Io dico la verità, io mi ho messo il punto qua la casa, ma non paga tanto, grazie a Dio, la casa è mia. E casa questa di chi è? Del figlio della Ciracca di Camboi, è mutuo, l'ho fatto anch'io, ho già venuto 10 anni fa di bagarla, quindi, anzi no, questa l'ho messa al secondo piano, l'ho comprata subito, immediatamente, perché l'ho comprata dagli eredi e quindi cash anche quello, però ne avevo già venduto un'altra, quindi è chiaro che è stato fatto un salto di qualità per avere la casa più grande. Ma io sto parlando dell'altra, l'altra è un'altra cosa. 42 anni di sacrifici, caro Franco, capito? A parte, vabbè, c'è stata un'eredità e quindi ho incassato dei quattrini, ma lasciando perdere quello, il resto l'ho messo tutto io e lo sto continuando a mettere. Cioè, tu immaginate che io qua ho comprato nel 1985, allora i mutui erano quindicennali, quindi immaginate già di due. Sopra davvero non ho piano, ho venduto quella e ho preso questa, siccome non mi piaceva ho fatto le modifiche e me ne sono andato nella casa di un mio parente in via Pascoli, ci sono stato 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, ma perché stavo veramente bene, veramente bene. Infatti io qua non ci volevo più tornare, lì ero già organizzato, avevo l'antenna, avevo tutto, la casa Gianni mi pare che l'ha vista, era anche molto bella perché era tutta rifatta nuovo, molto bella quella casa, però ero stretto, non c'era il posto per me, capito? E quindi ho detto vabbè io andiamo e via, e mi sono tornato qua, capito? Ma questa non ha nulla, né mutui né nulla, non va nulla, nulla, nulla. A me contende l'altra, chi sei a me contendeci? Ok, ma ci ho fatto due io, no? Una, due, più un magazzino e più ho dato una mano anche a mio cognato a farcela lui la casa, ha preso un poco. Io ne ho due, questa mia dove abito io e un'altra dall'altra parte che non dico dov'è, quella è affittata, dai, diciamo. Fate contatto, per cui sempre con lavoro. E poi grazie a Dio diciamo che al momento senza nessun vanto ne posso comprare un altro di appartamento sempre contante e mi lavorare in buro un mese di là. Per cui vede bene, però ho già lavorato 50 anni a conto mio, per dirti no. E in tutto totale oltre 62 anni ho lavorato in tutto. Se serve di bene che sacrifici già ne ho fatto, ma le ore che ho fatto io, guarda, se io ho subito 77 anni al mese entrante, no? Se dovessi mettere insieme tutte le ore di lavoro che ho fatto, come minimo potrei dire che faccio 110 anni, che avrei fatto un po' buia, la notte non rientravo mai prima delle 9 a casa, sempre, a lavorare anche fino alle 11:30, soprattutto nel primo periodo che mi sono sposato, fino alle 11:30 incollando, pulendo, senza fare rumori, no? Perché erano tutti lavori che mi lasciavo per fare a quell'ora, per avere magari un incollaggio che so io di 10 porte, 12 porte, 15 porte, tutte le tamburate, per averli pronti all'indomani, li mettevo sotto poi la colla era asciugata e potevo già incominciare a squadrare e andare avanti con il lavoro e guadagnavo una giornata anziché incollarlo il giorno successivo. Ci abbiamo detto, 5 minuti. Ehi Antonio, faticato per carità, ma comunque non me ne penso, non me ne penso. Ehi, sempre la mia più grande soddisfazione è quella di aver fatto e creato una soluzione per mia figlia che si è laureata e dunque lei oggi è in grado di arrendersi anche da sola e grazie a Dio sta lavorando anche molto ma molto bene e sono contentissimo. Oltre al fatto di quello che ho realizzato io di proprietà, la soddisfazione più grande è quella che io sono riuscito a fare laureare mia figlia. Tanto fa di fini una, 36 esami, a ogni esame ci vogliono 3-4 volumi, costava intorno ai 350 euro. Tanto partei noi insieme di Eia. Grazie a Dio ce l'ho fatta, la San Luce mi ha aiutato, la volontà ce l'avevo, per cui problemi non me ne sono messo. Avanti Claudio. Prego. Che okay, avanti. Con la buonasera, ciao Claudio, controllo radio e segnale. Fortissimo, radio collecco, segnale sei 9, quasi 10. Va bene, grazie, attacco l'altro, ecco. Ehi, è bella questa radiolina, va bene, attacca l'altro. Allora, perdonatemi, rispondo a Giulio e poi faccio girare. Giulio, hai 17 anni in più di me, ok? Tu ne hai 77, io ne ho 60 e sono già in pensione. Mi conviene che io non ho giocato, né da ragazzino né da grande, ok? Non ho giocato, ho lavorato per la famiglia, ho dato tutto quello che potevo dare alla famiglia, sto continuando a dare alla famiglia e anche a me stesso, per carità, perché non mi faccio mancare niente. Però la realtà della cosa qual è? Che i sacrifici, se non si fanno da piccolo, non si fanno da grande, assolutamente. Quindi come tu li hai fatti, giustamente sei nato prima di me, hai 17 anni in più e sei già in pensione da diverso tempo. Io sono in pensione ma ho 60 anni, quindi vuol dire che non ho giocato da bambino, perché c'era bisogno di lavorare. Oggi, grazie a Dio, non mi posso lamentare di niente. Mia figlia è la stessa cosa, si è diplomata nel settore alberghiero, è 15 anni che lavora, c'ha 32 anni, quindi anche lei se ne trova bene, capito? Perché anche lei è iscritta all'università e se ne è uscita, mi ha detto, ma a me chi me lo fa fare? Intanto, cosa ne ho? Cosa ne ho domani? Non c'ho niente. Non c'ho niente, perché lei ragiona con la testa mia, invece ci sono diplomata, perfetto, il mio settore è la ristorazione, me ne vado a lavorare nel mio settore, grazie a Dio c'ho 15 anni, ed è già per i battesimi, va a 32 anni però, capito? Quindi il discorso è valido un po' in generale, no, di quello che stiamo parlando, o li fai da ragazzino ai sacrifici, o non li fai da grande. Da grande ho provato a farli, ma con tanto sacrificio, perché non essendo più ragazzino è chiaro che quello che facevi quando avevi 20 anni non lo puoi fare quando ne hai 50 o 60, capito? Tanto è vero che ho buttato la spugna, l'ho buttata io, perché sennò io potevo rimanere ancora altri 2-3 anni al lavoro, senza nessun problema. L'ho gettata io la spugna, ho detto basta, non ce la faccio più, mi voglio dedicare ad altro, voglio stare più sereno, più tranquillo e meno incazzato, perché il lavoro che facevo io ti portavo anche a delle incazzature che non veniva bene a dirlo, tutto qua, capito? Quindi i sacrifici si fanno. E c'è una cosa fra da dire, che quello che sto facendo uscire adesso già mi rientra, e me ne avanza burro, mentre ha detto Giulio, tranquillo, perché ho un'altra vendita di una casa in San Francesco, l'altra metà, e più devo vendere questa, quindi altre 250 mi entrano, non è quello il problema, però intanto il sacrificio si sta facendo per portare avanti un obiettivo che è quello di avere una vecchiaia più solida, più tranquilla e più serena, con tutto il nucleo familiare, no a ragione, per carità. Vai Gianni, riprendi. Gianni si è addormentato, l'abbiamo fatto addormentare con tutti questi soldi, avanti fra. Troppi soldi in giro. Cerchiamo di abbassare un po', perché sennò qua, se ci sente qualcuno che non ha due mesi di sotto di dire la durata, non lo so. Buonasera, sono entrato giusto così in fretta e furia per sentire come va la radio qua. Questa qual è? Quella abbiamo regolato noi? Ma questo è il K. Il K. Ma va bene. Vai a figlia. Sì, ti ho capito, sì. Sai perché ti ho detto no? Perché c'è lo stacco diverso, però come modulazione ci assomiglia molto. Vabbè dai. Avete voluto che non la frego. Senti un po', l'altra invece volevo l'eco, com'era? Ah, bella, molto forte l'eco, molto chiaro, il verbero giusto, perfetta, per me andava bene, non lo so se Giulio che è più vicino magari ti sentiva male, ma io ti sentivo benissimo, Giulio. Per me era bellissima, anzi la voce che ti dica la verità, era più bella con l'altra che questa, per conto mio. Promesso che questa è ultima veramente, per cui ciao signor Tanto. Problemi, dai, un bel disperato di tutti e due, alla grande, riprendi, vai. Va bene, dai, ma era giusto una prova perché l'altra meno fatte, magari ti arrivava anche di meno, Claudio. Però è una coppietta con una camera ecco e microfono normale, proprio il suo originale, la stessa radio, sempre il 48. No, te l'ho detto, le regolazioni che abbiamo fatto sono ottime, lascia stare così, perché vabbè, mi dispiace non si è riuscito a mettere a posto l'altro microfono, però quelli che abbiamo regolato ieri sono perfetti, non c'è niente da dire. Modulazione bella, presente, forte, senza nessun problema, e anche l'altra non era molto bella, un bell'eco, bello forte, senza nessun rimbombo, ottimo. Franco, vai, poi chiama Gianni, vediamo se c'è. Certo. No, già è bella comunque la radio, quindi. Anche quella con l'eco era micidiale, era bella chiara. Sì, vediamo un po' se c'è Gianni. Gianni? Dove si è spostato Gianni? Fra quella camera eco che mi hai dato tu, cioè che io magari ci tengo. Sì. No, esce bene. Era bella chiara. Me l'hanno chiesta in tanti, ma questa muore qua. Ma non aveva nessuno, fino che più bella di vita. Sì, che cosa stai usando poco fa? Cos'è? Un M300? No, stavo usando il Midland 48, la camera Echo EC9990 con il suo microfono normale della Midland. Ah, con l'abbinamento che mi hai detto, che bella. Molto bella, sembrava una radio di quelle Colt, molto bella, molto molto bella, veramente, un bel eco, bello forte, corposo, però allo stesso tempo non fastidioso, molto bella. Il segnale invece quando si arrivava, quello lì, perché si è più basso, Così sì, 9,25, quell'altra è leggermente più basso, poco più di 9,20, ma niente di che. Tenendo conto che questo è attaccato e l'altro non ha niente, è liscio. Se vuoi ti rifaccio la prova, giusto per vedere e darmi conferma. Questo è attaccato. Allora, qua sì, 9,25, ma ci butto dei picciti per non sbagliare, vai. Ora! No, perdonami, senza occhiali. 9 e 10 con picchi a 9 e 15. C'è 10 punti S di differenza, ok? Va bene. Questa è bella radio, vero? Fra. Che bisogna andare a comprare un burrone che ti ha scatto l'eco. No, vabbè, tu sai benissimo, scusate il ping pong, tu sai benissimo che a me l'eco non è che mi è andato mai sempre a genio, però insomma, ogni tanto per giocare lo accendo. E ce ne ho due io, Colt, no? Ogni tanto lo faccio girare, ma non piace neanche a me, ma la radio piace questa, oppure il baracchino con il tarme più 3, insomma uscire è normale, così dai, come siamo noi, anch'io sono dello stesso tuo parere, però se ce l'hai bisogna farla andare, se sennò poi si rovinano le radio, soprattutto quelle modificate, capito? Vabbè, ottima veramente, ottima, e dei bellissimi abbinamenti. Avanti, matto giù, poi ti racconto una goccia, mi sono stessa proprio stamattina, che qua, ma la prossima volta che lo leggo è vitteggio burro di salutarlo, perché ogni volta parla sempre la stessa cosa. E prendi giù. Ok. Sì, no, io conosco bene la camera Echo, ce l'ho avuta io tanti anni fa e era favolosa, veramente. Ce l'ha anche Graziano, ce l'ha la camera Echo, e quando lui la regola bene ha una modulazione meravigliosa. Non sto scherzando, Tino, mi piace di più quella camera Echo che la radio del Rancoso, di quel 440, veramente. Non so per quale motivo, però mi piace di più. Comunque, diamo adito a, naturalmente, ai gusti, perché è quello che conta in ognuno di noi. Sono sempre soggettivi i segnali e soprattutto i controlli che diamo, per cui... Va bene, riprendi fino, dai, che dopo ti racconta qualcosa a Claudio, vai, quello che ha annunciato. Ecco, registrato. Lo so Giulio, lo so che non ti piace questa radio, purtroppo questa mi tengo, cosa vuoi farci? Gli altri sono giocattolini. Adesso mi rilancio il mic a Claudio e poi fa entrare il break, avanti. Scusa un attimo qua, no, non intendiamo la radio, io sto parlando del microfono, cioè della la chiarezza della radio, tutto lì. Questa è perfetta, non c'è niente da dire. Ma quel microfono là, come me l'hai fatta sentire, poi c'erano momenti o la batti in un altro modo o un altro discorso. Ma come me l'hai fatta sentire poc'anzi, ti dico che era più bella di questa, io la penso così. Però ripeto, ogni giudizio è soggettivo, per cui ognuno di noi ha le sue valutazioni, che possono essere chiaramente diverse dalla mia, ci mancherebbe altro. Va bene, riprendi qua, scusami. No, assolutamente, io sono solidale, nel senso che se devo dare un controllo devo dare il giusto. Tino ha diversi abbinamenti molto belli, abbiamo già verificati ieri e ti dico che va molto bene, è chiaro che magari nel tuo orecchio, come lo senti tu, lo senti con una timbrica un po' diversa, io lo sento con un'altra, però diciamo che gli abbinamenti che ha sono favolosi. Degli MB+5 che sono abbinati a dei baracchini seri e vanno molto molto bene, come quello che sta usando adesso, va molto bene. Sì, mi pare Daniele, avanti Daniele. Gaba, salutone circolare a tutti, buonasera. Ciao Daniele, buonasera, ben ascoltato, sei un po' assente, eh? Adesso ti scriviamo nel libro nero, come dice mio padrino. Avanti Franco, il discorso ce l'avevamo poco fa, mi c'era Franco, Giulio, con Antonello, ok, che è entrato Marino, a me nel K, Marino, nel 4.40 mi arrivava Santiago 9, ok, a lui nel baracchino 9.25, cioè, tanto è, daglielo più basso segnale, ma è sul più del 3, ho capito, ma un baracchino, la scala è quella, più di ghiaccio intanto non anda, capito, come lui, a me mi arriva 9.30 col baracchino e mi arriva 9.40 col 4.40. Le proporzioni con i baracchini non è che li possiamo fare, sono molto soggettivi, nel senso che sono dei segnali di riferimento. Quando io ti do un segnale col 4.40, te lo sto dando giusto, preciso, capito, quello stavo dicendo. Avanti, Fra. Ciao Daniele, buonasera, ben ascoltato. Franco, l'ascolto. Avanti Daniele. Era assente, ho fatto, mi sono costruito una specie di stanza mia qua, adesso sono tutto lo spazio io c'ho, e poi stavo facendo un corso e mi sono dovuto assentare in questi giorni. Vabbè, è importante fare un grosso per la sopravvivenza, la bue, ma non resta futidini. Vai Tino per salutare Daniele. Va bene, ciao Daniele, ciao. Giulio, questa è l'altra, non è quella che hai sentito poc'anzi, non so se te ne eri accorto, questo è come quello che tu, l'altro magari è troppo più amplificato, raccoglie un pochino più di cosette che ci sono nell'aria, però... Sì, no, l'avevo capito, lo so io degradando questa, ci mancherebbe altro, questa è una radio professionale, è ottima, te l'ho detto, è ottima, veramente bella. Io non sto parlando di radio, sto parlando di modulazione, e basta. E ti ho detto, come me l'hai fatta sentire prima di aver attaccato il 4.40, mi hai mandato una modulazione per come era regolata, ripeto, che poi magari la sento la prossima volta e non è regolata allo stesso modo, ti posso anche dire che non era come prima o che è meglio questa del 4.40, ma come me l'hai fatta sentire prima, devo dire che mi è piaciuta di più della modulazione del 4.40 che stai usando adesso, che è eccezionale, e lo voglio sottolineare, è eccezionale. Però ho detto che ogni modulazione è sempre soggettiva. Io l'ho sentita così bene, mi piace così, poi a Claudio può sentirla diversamente con un altro orecchio e lui la valuta a modo suo. Non so se mi sono spiegato un po' caldo, ma l'ho detto chiaramente. Ecco com'è la situazione, oddio. E ripeto, è una camera, ecco, eccezionale. Magari se me la fai sentire e non me la fai sentire a quel livello, ti posso dire no, è più bello 4.40 o viceversa. Mi sono spiegato, Tino? Va bene, sono contento che ti sia piaciuta. Quella la uso così, per giocare, quindi ogni tanto tenete conto anche di questo. rimanere, riprendi dai. Chile, no, io sto usando sempre, questo è un altro 48, quell'altro si è nuovo inceppato tutto. Però scusa Dani, però Giulio ti sta dicendo quello che abbiamo detto noi ieri, stai attento perché a primo impatto tu sei entrato con l'altra radio, poi hai messo la camera ecco, quindi cioè, Giulio ti vuole dire che quella prima è la camera ecco è eccezionale, ma quella prima è la camera ecco, è una buona modulazione, attento, non si allontana molto dal K, come ti ho detto io ieri. Infatti tu te ne sei accorto perché lo stacco del microfono è differente e tu lo conosci. E io volevo far sì che usando quello lì magari qualcuno non se ne accorgeva. Va bene, dai, ci sta tutto. Ti mi hai preso il contropiede, mi sono accorto e te l'ho detto senza pensare a quello che avevamo detto ieri, dai, mi sono inceppato, comunque è un'ottima modulazione, tutte e due sono belle, no? Non c'è problema, il Camarecco è fantastica veramente, molto molto bella, forse una delle migliori che ho sentito con l'Ecco, non so, vediamo un po' Gianni che fine ha fatto, se no riprendi tu fra, Gianni, a Gianni le è mancata la luce, diciamo pomeriggio che le sta mancando la luce sicuramente, se no non è da lui allontanarsi così, avanti fra. La luce sta mancando lì a Cassari, come mai? Non lo so, Gianni mi ha detto che lì dove abita lui, la zona che abita lui, qualche volta manca la luce. Infatti mi ha detto, se non rispondo subito vuol dire mancata luce, quindi sto pensando che, a meno che non l'abbiamo telefonato, è arrivata gente, ma di solito entra e ci avvisa, va bene, dai, entrerà dopo a... Daniele, fammi terminare queste cose, perché anch'io sono un po' incasinato. Poi facciamo un sopralluogo e vediamo dove montare quell'antenna, ok? Ehi, Acla, non c'è problema, intanto sempre lì, meno male già riesco a sentire a tutti. Scusate che ho una massa. Ehi, a te, siamo qua. Giulio, riprendi. No, ti volevo dire una cosa. No, siccome stiamo parlando appunto poc'anzi di pensioni, eccetera, io ogni volta mi devo incazzare. Cioè, ma è possibile che uno che non ha mai fatto niente in vita sua, perché io conosco questa persona che non abita distante da casa, ogni volta che scendo all'edicola o vado all'edicola a Cattoveddo, va vedendo sempre la stessa cosa. Ma è mai possibile che, almeno stai zitto, non infierire nella gente che ha lavorato una vita come me che va a 60 anni e se vuoi in pensione, e gli ho detto anche quello di... Cioè questo elogiando questo reddito di cittadinanza, perché lui l'aspetta, perché lui non ha reddito, perché lui non ha... Aiuto, ma scusa un attimo, ma se tu sei in chi condizioni, a chi sei in chi condizioni? Proprio in Sassarese, di ovvero. Perché non hai mai avuto voglia di fare niente, c'ha l'età mia, ma ti rendi conto? Cioè a me mi la zia senza vanuta, il miglio a chi mi spettano perché io, perché qua, perché là. Qua non ci ho visto più, l'ho mandato a fare in quel paese. Ma dimmi tu se uno può fare vita con me, che ha 60 anni, c'ha 42 anni di contributi lavorati, tu che non hai mai fatto nulla, bidi 200 euro senza vanuta. Ma è una cosa impressionante. C'ha ragione. Vai, morto. Non è possibile assolutamente. Io per avere una pensione dignitosa, perché se no sarebbe stata una pensione bassa, perché lo sai benissimo che la pensione degli artigiani sarebbe stata bassa, ho dovuto rinforzare e anche pagare un doppio di quello che pagavo di contributi, di quello che avrei dovuto pagare pensando a quello che ti imponeva dalle bibbie. Questo sia ben chiaro, perché grazie a Dio un deposito, come ho detto poc'anzi, fanno perché mi voglio vantare, ma lo sono costruito e ce l'ho, e poi ho un'altra entrata, ripeto, come ti ho detto, da un altro immobile che ha abitato, ma ci sono altri discorsi, io tu sai benissimo, non ne ho mai parlato di queste cose, anche perché sono cose personali, non è che mi piace tanto andare a sbandierare così, però lì se consideriamo che siamo in tema di sacrificio e di discorso, appunto relativo a queste cose, sono voluto anche dire, tanto avevo pagato, non avevo volato, di conseguenza mi sono sacrificato e ripeto ancora una volta, tutto fatto in contante, senza mai aver preso un mille, allora c'era lì il conto di prestito, nello della regione, io come artigiano avrei potuto prendere un contributo regionale con un 35% a fondo perduto, nemmeno quello ho preso, nemmeno quello, pensa un po', perché, essere sincero, l'avevo fatta la domanda per prendere il contributo alla regione, ma l'avevo fatta per cosa? Per acquistare il magazzino per il laboratorio. Cosa è successo? Che questo contributo me l'hanno approvato dopo 4 anni da quando avevo fatto la domanda, e c'era uno, c'erano i soldi per il magazzino e anche per il contributo come scorta materiale. Beh, me l'hanno dato dopo 4 anni, io li ho rifiutati alla Banca Popolare di Sassari, li ho rifiutati perché gli ho detto esattamente queste precise parole, io li ho fatti 4 anni fa e ho chiesto questa cifra, se poi me la date dopo 4 anni, a me quella cifra non mi interessa più, perché non hanno lo stesso valore di 4 anni fa. Sono rimasti così incantati anche il direttore della Banca Popolare. Tutto sommato ha ragione lì, e cosa facciamo? Fate quello che vi pare di piacere, dice il soldo della regione perché io non li voglio. Dice faccia lei una lettera raccomandata alla regione, no, non faccio proprio un bel niente io. Siete voi che vi dovete restituire alla regione, perché la regione le date voi e voi li dovete dare a me. Io non li accetto e restituiteli voi alla regione. Mi sono spiegato con Claudio. Scusa Franco, dopo ci facciamo una linea. Dici, sì, non ero primo a aver rifiutato. Assolutamente. Sì, ma infatti, capisci, è così, la realtà è quella. La realtà è quella. Io chiaramente quando ho comprato nel 1985 lavoravamo io e la mia ragazza, che poi è diventata mia moglie, che io vedo buona vita, come moglieri, lavoravamo tutti e due, ci abbiamo messo un piccolo mutuo alla casa, la prima ce l'abbiamo pagata, poi l'ho venduta e mi ho comprato quella più grande. Ok, sempre senza fare mutuo, e va bene. Uno che non ha mai fatto niente in vita sua, io lo conosco benissimo, è stato sempre alle spalle dei genitori, nulla facente, nulla tenente, sempre bello, etichettato e sempre in giro, baribara a destra e a sinistra e a sigaretta di punta. Ma come ti permetti a venire a dire a me, io biglio la midai della missione in due senza far nulla, a chi mi spetta di diritto? Ma cosa stai dicendo? Io quella gente l'avrei fatta a pezzi, buttata dentro il cassonetto della mondezza, perché non servi a niente, sei meno di zero, capito? Vai a infinire alle persone che hanno lavorato una vita, su questo reddito di senanza, quella è una cosa che ne resteranno più di uno, secondo me. Hanno assunto 100 finanzieri in borghese, 100, e tu avrai vero casino che succede. Salvini ha detto a tasso zero, chi sbaglia paga, chi sbaglia paga, stanno controllando i peli dal sedere a tutti. Ma come fa una persona che c'è 40 anni con la moglie o col marito, con i figli a casa, ma in giro di pochi mesi si separa dalla moglie, si curivora di figlioli, ma per un reddito di cittadinanza? Ma per cortesia facciamola finita, che questa è una truffa allo Stato, c'è la galera, dai 2 a 6 anni di galera, li avrei arrestati tutti. Vai Franco. Ehi, guarda, è un discorso che lo fanno tutti, ho avuto una discussione anche io qua, ho avuto con queste persone, che loro ci hanno diritto, cavolo, ma ci va, se io da loro, ho lavorato 50 anni, fa nulla, fa danno, lui dice a lui, e tu ha più di me, ma lasciate perdere, va. A volte io su questa gente giro palle e me ne vado, non gli rispondo neanche a voi. Ah, tuo fratello sembra fatto apposta, mi raggio a sangue, ogni volta che andrò a dico a pigliare il giornale a mie moglieri, perché io non me leggo di Nuova Sardegna, non li butto io i soldi a leggere male, capito? Mi guardo il telefonino e forse c'è più realtà. Ogni volta che vado alla dico a caricare il telefono a mia moglie, a caricarmelo io, a prendere il giornale a mia moglie, fa sempre chito, va a vendere la stessa cosa. Il samani mi ha avuto me, con i bibilisti di mezzo di radio, voi appena avvisato, capito? Stavo andando a prendermi un caffè perché avevo appena portato il cane, figurati tu. No, c'è sempre una tessitura, c'è sempre una tessitura. E tu devi solo vergognare a parlare di queste cose. Tu ti devi vergognare, gli ho detto, siccome l'ho detto tu, c'ho l'età mia, mi pare 60-61 anni, ti devi vergognare, perché non si parla in questa maniera. Se questo sussidio ve lo stanno dando perché siete morti di fame, perché non avete mai fatto niente in vita vostra, capito? E state prendendo questi soldi dalle spalle di chi ha lavorato una vita, perché da lì li stanno tirando fuori i soldi, vi dovete solo vergognare. Quindi vai e girami la giudito proprio la parolaccia, gira il ripardo e mi dice che è andato, capito? Avanti Daniele. Ehi, cava cava, io l'ho fatto oggi la domanda delle cittadinanza, poi bisogna vedere cosa ne c'ha fuori. Faccialo stare a Pomponio, sempre mi leggo un Pomponio, tu cazzo, boh. Sai in cazzato niente oggi, che è di turno infermiere, buon dubbi voi. Un saluto festoso a tutti, dai. Non sono in buone condizioni, dai, ho avuto un piccolo incidente, diciamo, di percorso. Io per esempio non credo di averne diritto, ma anche avendone diritto non va bene, perché questo reddito di cittadinanza è subordinato anche alle offerte lavorative che ti fanno. Io purtroppo fisicamente sono messo male, non posso accettare lavori, quindi è inutile anche prendere reddito di cittadinanza, perché sarebbero mesi di soldi rubati. E lo dico io, che pure non sono occupato. Dai Claudio, riprendi, sono all'ascolto. Non... No, ho avuto un piccolo, ho preso una birra a 1 euro da MD, no? Ho detto, beh, 1 euro, una lattina da mezzo litro, buona, io sono astemio, no? Peccato che era da 12 gradi al 12, quindi nonostante che abbia mangiato sono leggermente incicciato, mi gira la testa, sono mezzo dilatato e così, dai. Riprendete voi, rimango all'ascolto, non riprendo. Fate un caffè che ti passa. Vedi, si potrebbe ragionare anche in quella maniera, ma non a infierire in persone che hanno dato veramente la vita per la famiglia e per se stessi. Infierire in questo cavolo di testa, perché è una cosa veramente vergognosa che questa gente debba percepire. Io capisco veramente delle persone che hanno necessità, ma io parlo di persone veramente povere, che nonostante abbiano una pensioncina perché si hanno lavorati quei 20 anni, quei 25 anni, eccetera, abbiano una pensione minima e che quindi va dato un sussidio per portarli almeno sotto la soglia della povertà. Su quello io ci sto, per carità, non sto criticando nessuno, ma che tu, che io ti conosco personalmente, che non hai mai fatto niente in vita tua, vai a infierire sulle persone che hanno lavorato una vita e che hanno una pensione di 1500 euro, e devi ricampare la famiglia, tu mi bigli la metà e senza far nulla. Ma è vergognoso, veramente vergognoso. Vai Giulio. No, riprendo, scusate un attimo, però qua c'è da dire questo, per dire, prendi il mio esempio, no? Io lavoro stagionale, tre mesi all'anno, poi prendo 3 mesi di disoccupazione, prima che mettessero questa storia del reddito di cittadinanza, io campavo l'altra metà dell'anno con la disoccupazione. Cosa è successo? Che adesso tu lavori 3 mesi, sono 3 mesi di disoccupazione, poi è finito, quindi ti devi aggrappare a questi sostegni, perché il proseguo della disoccupazione l'hanno abbinata RAIS e reddito di cittadinanza. Esatto, lo so perfettamente, non si chiama più disoccupazione, si chiama NASPI. La NASPI è inserita sia nel prepensionamento, quindi ti accompagna sino al giorno che tu vai in pensione. Dal momento in cui tu la finisci e la tua finestra di pensione si apre dopo 3 mesi, allora ti inseriscono il reddito di cittadinanza per quei 3 mesi di copertura. E ci siamo, Daniele, ci siamo, perché hai lavorato giustamente, la copertura te la deve dare lo Stato, sino al momento in cui tu vai in pensione, o viceversa, sino al momento in cui tu hai terminato la prima serie lavorativa, hai un buco di 3-4 mesi di chiusura NASPI e quindi si prolunga con il reddito di cittadinanza sino a trovare un'altra occupazione. Ci siamo, su questo ci siamo, ma tu che non hai mai lavorato e percepisci il reddito di cittadinanza, come ti permetti di andare a infierire su quelli che hanno dato la vita sul lavoro? È vergognoso, capito? No Marco, non è né un CB né uno, è una persona che abita nell'altro palazzo a fianco a me, che ha sempre fatto dalla mattina alla sera. Se tu le dici nella piazzetta rossa o in piazza Aldo Moro quante mattonelle ci sono, lui ti dice di che colore sono, quante cingome ci sono attaccate al pavimento e quante mattonelle ci sono nella piazzetta, perché sta tutta la mattina passeggiando a destra e a sinistra chiedendo sigarette e rompendo le palle alla gente. Ecco, questo io non lo sopporto. Avanti Giulio. Io ora devo chiedere il reddito di cittadinanza, forse me lo danno. A te ti danno la nave. Chi si compra le moto da 30.000 euro non ne avrà mai di reddito di cittadinanza. Ciao Giulio, Eugenio. No, stavo pensando qua, ma è mai possibile che una persona debba essere così talmente che ha odiato il lavoro, che non ha mai fatto niente in vita sua, e poi anche la faccia tosta di pretendere. Cosa di pretendere? Io odio quelle persone, soprattutto quelle che stanno buttate dalla mattina alla sera nei bar o nei circoli. Io voglio sapere da dove trovano i soldi questa gente per poter campare, per poter andare avanti. O perlomeno penso che aspetti ogni al bar che un amico entra e gli offra un caffè, gli offra una birra. Quelli sono dei miserabili, nel vero senso della parola. Magari possono essere anche persone brave di carattere, però ciò non toglie che non siano miserabili a livello di lavoro, del fatto che non hanno mai lavorato. Questa è gente che sinceramente parlando non si merita un centesimo di assistenza, di sussistenza, niente. Questo è niente di niente. Purtroppo ci sono queste persone, purtroppo esistono. Chiaramente lo Stato deve essere quello che deve aiutare questi soggetti qua, però questi soggetti non ti credere che sono tanti furbi come pensano loro, che si separano la moglie per avere il reddito di cittadinanza. Non è così, no, vale due. Intanto guardano la data quando ti sei separato, per dire, no? In modo che possano fare il discorso, o questo si è separato appositamente, o perlomeno a quello lo chiamano e dico: vieni qua tu devi andare a lavorare a 100 km di distanza, voglio vedere se ci vai a lavorare, non ci vai, e allora nemmeno vedo in cittadinanza. Io, che vedi bene, c'è la legge che non è così tanto stupido come ha fatto quella legge lì, stai tranquillo che non è, ma ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno fatto la domanda, ma poi alla fine quando fai il conto di quante persone avranno il diritto, saranno siendo un quarto di tutti quelli che hanno fatto la domanda per avere il diritto di cittadinanza. Io ne sono più che convinto che sarà così, e ti dirò di più, c'è gente che dice anche la galera, perché l'hanno detto chiaramente, si dice anche 6 anni di galera, e non è poco, 6 anni, tanto per dispendersi, per dire una, perciò devono stare molto attenti i furboni. Avanti Franco. Quelle ce le ho io, le asse di plastica, altro che. Però se c'hai le ossa di plastica che non puoi lavorare, non ti devi permettere neanche di fare il diritto di cittadinanza. Ah, infatti io non lo faccio. Purtroppo è così, c'è gente che ci marcia, che secondo me non accetterà mai il lavoro. E nel frattempo si becca in questi mesi il reddito, sicuramente truffando anche lo Stato, perché c'è gente che figurerà di abitare altrove, in monolocali, capito? Però quando si scopre poi che è truffa, non solo, gli chiederanno indietro anche i soldi dati, capito? Più la truffa i danni allo Stato. Dai, mi gira la testa, vai Claudio. Allora, non vi accavallate, parlate una alla volta, eh? Ok, volevo fare una domanda. Oggi lascia perdere che tu per l'età che hai sei una botte di ferro, grazie a Dio, e sei uno di quelle poche persone che anche tu hai iniziato a lavorare da ragazzino, perché lo so e ti conosco, e non hai bisogno di nulla. Queste sono cose proprio vergognose di chi infierisce su chi veramente ha voglia di lavorare, perché io oggi ho travagliato e voglio ancora di lavorare tanto, però basta, cioè sono arrivato, lascio spazio agli altri. Volevo fare una domanda a Daniele. Daniele. Ehi, dimmi, Cla. Quindi hai detto poco fa, per approfondire il discorso, praticamente, se ho capito bene io, quando tu termini la NASPI, il cosiddetto disoccupazione speciale, quando tu termini la NASPI, succede che ti inseriscono il reddito di cittadinanza sino ad arrivare alla prossima occupazione, questo hai detto? Allora, in pratica è così, Cla, perché lo so perché ci sono in mezzo io e purtroppo con queste, da quando è entrata in vigore il REI e il REIS, che sarebbe quello regionale, con questa serie di cittadinanza io ho perso una barca di soldi, perché hanno fatto questo sistema che è ingiusto nei confronti di chi nel mio caso, perché se io lavoro 3 mesi io non posso prendermi, sì, 3 mesi di disoccupazione, però poi c'era il proseguo dell'ASDI, come cavolo si chiamava, il proseguimento della disoccupazione, non mi puoi costringere a fare il race oppure farmi addirittura il reddito di cittadinanza per questi mesi che io sono fermo, e poi devo mandare poi documentazione a loro, come io riprendo a lavorare, sto, c'è sempre questa trafila qua, è un casino alla fine. Ti ho capito, nel caso tuo, perdonatemi, nel caso tuo stai parlando di 3 mesi, allora se uno invece ha un anno di NASPI, no? Quindi da gennaio a dicembre, la termina a dicembre, riprende a lavorare, per dire, ha dei buchi, quindi facciamo nell'anno 2018, no, sto facendo ipotesi, da gennaio 2018 a dicembre 2018 lui percepisce la NASPI, la cosiddetta disoccupazione, finisce la disoccupazione, rimane 3-4 mesi fermo perché ancora non ha trovato lavoro, le accodano il reddito di cittadinanza oppure le fanno il proseguimento per quegli altri mesi lì della NASPI? Non è possibile, perché se è un anno che te ne aspetta, ma un anno termina, hai capito? Sì, se un anno, penso che sia poi un anno di disoccupazione, perché se le leggi hanno cambiato, io per dire 3 mesi lavoro, 3 mesi prendo disoccupazione. Però finiti l'arco della disoccupazione che ti spetta, poi o ti agganci a REI, o ti agganci a REIS, oppure ti chiedi di cittadinanza. Ho capito, no, perché questa è una cosa che mi interessa, perché la prossima volta devo rispondere ad un altro che ha fatto questa domanda, io non ero preparato, so che superati i 50 anni la NASPI, la cosiddetta disoccupazione, è per 2 anni, se sei sotto i 50 anni è per 1 anno, quello lo so perché l'avevo visto in alcune carte di alcuni miei colleghi, va bene, ok, adesso so cosa rispondere a questa persona. Va bene, Franco, a te il microfono, vai. Poi rilancia Pertino, vediamo se ha terminato, se è andato a fare qualche cos'altro. Sono entrato, 18 mesi comunque. 18, Antonio? Sì, da 18 so. Beh, mi ricordavo una cosa di non mi ricordo se era 18 o 24, perché mi hanno fatto la domanda l'altro giorno, proprio lì da Nico, stavo parlando con Franco da Siena, e non riuscivo a risponderle. Va bene, riprendi e fai girare per Franco, Antonio, dai. Bianco, un secondo che è una bassa. Ehi, ciao, saluto anche a te. Avanti, fa. Sì, certo. Io sono da mio cognato che ragazzi sotto i 50 a 6-7 mesi mi sembra, una cosa del genere, non un anno, che l'aveva, a meno che non l'hanno modificato. Fra, io lo so da 2 miei colleghi che appunto sono andati via 2 anni prima dal lavoro, e avevano uno 55 e l'altro 52, percepiscono 2 anni, quindi penso che sotto i 50 sia un anno, e se no è un controsenso, perché me ne dai 2 anni o 18 mesi come dice Antonello e sotto la soglia dei 50 anni me ne dai 6 mesi, è un controsenso, quindi penso che sia un anno e l'altro 18 mesi, non lo so, mi devo informare per poter rispondere bene, dai. Ok, comunque a prescindere da quello, capisci Giulio? Capisci? Cioè la soglia è quella, la soglia è quella, quindi chiunque abbia quella soglia viene accompagnato sino alla pensione oppure alla prossima occupazione. Chi che non ha fatto nulla è accompagnato a vita con 800 euro mesi, ma roba la matti. Oh, scusate, che riprendo io, mi devo allontanare. Sentiamo più tardi se coincide, dai. Ehi a te, sentiamo dopo. Ciao, dopo. Ciao Tino. Ciao Tino, dopo, ciao. Vai Giulio. Ok, ciao Tino. Sì, qua infatti è così, sono 18 mesi, certo. Ma anche le reti di cittadinanza, inizialmente sono per 18 mesi, poi bisogna vedere se il governo lo risolva. E dovrebbero essere 3 anni come regola, perlomeno si dice si potrebbe allungare a 3 anni, però intanto bisogna vedere se lo allungano. E sono i primi 18 mesi che poi dovranno riconfermarlo primo. Poi c'è questo da dire. E tanta gente è convinta, ad esempio, c'è quello che prende tanto per fare un'assistenza, no? Di qualsiasi genere, eh? E questa assistenza non è che te la danno e tu ti danno la cittadinanza, no? Viene integrato, fino a che pare 780 euro. In poche parole, se sei un pensionato che prende 550 euro di pensione solitamente, così com'è, no? Quello non è che gli danno 550 su 780, no? No, gli danno un momento per arrivare a 780, perché la soglia della sopravvivenza è di 780 euro, ha stabilito quello del governo, che deve essere così. Però, ripeto, non è che dura in eterno, nella maniera più assoluta, perché poi, soprattutto i giovani, li trovano su vere robe, tu devi andare a pulire le strade qua a 100 km di distanza, quando sei fortunato, ci vai sì o no? No, non ci vado, va bene, tagliando fuori dalle scatole, tu non prenderai più nemmeno su 60, di 780 euro, e così via. Così lo stesso, c'è quello che ha per dire, non so, una pensione di invalidità, ci sono tante persone, una persona che noi conosciamo benissimo, che lui è in attesa, che vuole che più del pane sta aspettando quei soldi, che prende 250 euro, che tra l'altro poi le capre valorate di più e l'Inpis gli ha anche diminuiti, le sta togliendo a poco, 20 euro mi sembra al mese, lo faccio al 9, ma già mi è capito qui. Cosa ti credi? Che danno 250 più di 780? No, hai preso un attimino, vai ma giusto, a te ti do 780 euro compresi le 250 di infortunio che stai prendendo, o meglio di pensione di qualsiasi genere che sia. Ecco come funziona. E la gente è convinta che gli dà del denaro, sì, no, non c'è del denaro. Poi a te ti dico, tu che cosa possiedi? Possiedi la macchina, possiedi la casa, possiedi la moto, possiedi questo, quest'altro, quanto reddito avete in famiglia, perché considerano quello anche, il reddito familiare, non è il reddito dell'individuo, ma il reddito familiare. È inutile che un padre, ad esempio, sia disoccupato, però ha i figli a casa che lavorano e raggiungono quel reddito, gli do quel 1.300 euro che pare che sia all'anno, non tenerando, sei tagliato da quello. È tutta una serie di leggi, che non è così semplice, Claudio. Avanti Claudio, tu prendi quel tirare tu. Sì, questa l'ho già letta, l'ho vista, ne ho anche parlato con alcune persone che appunto le mogli hanno la pensione minima di 450 euro, lui c'è la massima, però ha già fatto l'integrazione, si chiama, integrazione alla pensione, reddito di pensione, quello c'è e c'è l'integrazione, da 450 gliela portano a 780, integrazione però, per differenza, sempre a 780 deve arrivare, perché la soglia minima di povertà è di 700, quindi non devi stare sotto a 600 euro, capite? Quello sì, quello lo so, sì, so di chi stai parlando, tranquillamente. No, non mi interessa. E anche lì bisogna vedere, perché se c'hai o la moglie o il marito che ha un reddito fanno cumulo, e quindi bisogna vedere se ti possono inserire o se darti solo un sussidio o parziale per poter arrivare alla soglia di povertà. Quindi non è detto che ti danno 780 euro, ma si parla anche di circa 500 euro complessivo con quello, con il reddito che ha tua moglie e tuo marito. Questo è quello che so io su documentazione ufficiale che ho letto, poi niente. Va bene, e quindi Tino è uscito, Daniele sei rientrato al telefono, sono riprenditore. Io faccio bianco un attimo perché sto scendendo Giampiero, accendo una cosa a lui e poi già riprendo dopo, là, non c'è problema. 10 minuti, 4 ore, quello che è, e poi riprendo. Si conferma Marco Antonetti, va bene, vai a assistere a Giampi e poi risali, già siamo qua, dai, se non ci sono io sono per portare il cane, sicuramente già c'è Giulio con Franco. Avanti Fra, ciao Eugenio, ci sentiamo dopo da casa, vai Fra. Capo, dai, ma io vi devo lasciare però perché devo, mi ho chiamato giù, ci sentiamo, dai, ciao Giulio, ciao a tutti gli altri che sono in canaletta, Daniele, se c'è ancora, Marco, Eugenio, gli altri se ne vanno andati. Ciao Claudio, ci sentiamo. Riprendi Giulio e fai girare. Scusate, sono al telefono. Scusate, che mia moglie si è avuto un capo a lungo dell'armadio. Sono al telefono, scusate. Eia, va bene. Daniele, telefono? Tutti al telefono siete, va bene, sono qua, dai, mi preparo. Ehi Eugenio, ma dove sei? In macchina? Ah, nel viale di casa sì. Esso, ma la radio è fantastica, segnale non hai, boh. Ma mettiti un legnarettino piccolino, gà. E beh Daniele, finito il telefono? Te capì? Ehi, te capì? Ma tu che sei analcolico, cazzo, ti metti a bere una birra a 12 gradi, boh. No, veramente credevo che fosse da 4,7, perché ce n'erano forse due tipi, no? Ho detto, beh, oggi sono melanzane col pane, no? Ho detto, mi voglio bere qualcosa di diverso all'acqua, no? Una birra, non è che... Ho visto queste birrette da Orange Boom, non so, una marca strana di MD, da a un euro. Ho detto, beh, un euro... Poi io ne ho bevuto meno di due bicchieri, però essendo astemio... Sono tagliato le gambe, allucinante, sì, c'era questo 12, ma credo 12 anni, sai, che ne so, dal coso della fabbrica, anniversario, no? Da marche che non esistevano pochi anni prima, se non ho proprio guardato le, era illeggibile quasi, ho preso la lente, 12% di volume alcolico, quindi anche a stomaco pieno, ma un po' segato le gambe. Io ho capito comunque, Claudio, è vero, c'è gente che vive di espedienti, anche che appena lo sfiori col paraurti si mette il collare, cioè truffa l'assicurazione praticamente, o chi si sbatte alle vetrate dei negozi e poi manda la lettera all'avvocato dicendo che non era ben segnalato il vetro, no, perché certi vivono di questo, campano di espedienti, capito, a fottere e purtroppo... Anche questi del reddito di cittadinanza, diciamo con metodi poco legali, no? Simulando coso, molti sono al sud Italia, molti. Quindi quando dicono che il sud certe volte a carico del nord Italia non hanno tutti i torti, ma lo vedi come campano, o spacciano, o vanno a carico dello Stato, completamente. Avanti. Buonasera Marco, ciao Claudio. Marco Massimiliano, parcheggiato là il bulldozer. Parcheggiato l'avremo, Baucci. Mamma mia. Questi sono lavori mi. Marco, questi sono lavori. No, uno che il biglioretto di senata sta vannuta, no? Questi sono travagli. Per carità, quanti anni sei Massimiliano sopra quel mezzo? Fate il conto, ci avevo 14 anni quando ho iniziato, nasce 43. Mamma di tutti, mamma di tutti, da paura, esciughe, ero lavoro massacrante, Marco. quello sì. Si veniva a Buffalaia la domanda di anticipo pensione per lavoro giornante. Che sciuga, a stavottori, di zuri, di altaccia macchina. Altro che vibratore. Sì, ma gli altri da su troveggia, vabbè, cosa ci vuoi fare? Avanti, Marco. Eia. Ehi, però Massimiliano, non so se hai seguito il discorso, io sono entrato già tardi e non sono in buone condizioni. Capito che questo che si è grattato una vita sfotta pure chi ha la pensione, no? Dicendo io non faccio niente, mi becco la... Quant'è? 800, quant'è che hai detto Claudio? Capito? Vabbè, lì non potevi mandarlo a quel paese anche, o dargli un calcio in culo, Claudio. Io ho lasciato parlare da solo. No, ogni volta vado le dicono, Massimiliano, uno che avete vicino a casa, no, ha fatto la domanda, ha detto che stai nato, aveva 60 anni, non ha mai fatto nulla in vita gioia, sempre a carico degli altri, a carico dei genitori, capito? Se tu le chiedi, stavo dicendo, quante mattonelle ci sono qua in piazza del lavoro, lui dice quante mattonelle ci sono e quante cingomme ci sono attaccate alla pavimentazione, che c'è di stare in chivi senza far nulla, capito? Sportello, ah, bello così, ah, già, a casa senza far nulla, tu fa vedi, tu più tu fa vedi, ah, io mi... Da un mese che entra a 800 euro se sta fanno nulla, la mi dai della pensione che pigli tu, hai capito? Ci sfottano pure. Non lo sai che è così, cra, se se lo possono permettere, capito? Vabbè, diciamo che con 800 euro fai ben poco, se non che vivi da mezzo randagino con 800 euro, perché inizi a pagarti luce e quant'altro. L'800 euro ti ha avuto ben poco. Sì, ma infatti non si devono permettere di finire con chi ha lavorato, ne parlavamo con Giulio, con chi ha lavorato 40 anni, capito, dendi fendici ruguru, parole povere, e tu ti permetti di infierire su queste persone, e tu ti devi solo vergognare. A Edo, 800 euro, ma una ghetta di durani, è sempre un po' da fare i venditori, cosa lascia perdere. E però intanto, capito, ce li ha sempre a far niente. E c'è gente, come parlavamo con Giulio, che ha 500 euro di pensione, che adesso porteranno sicuramente l'integrazione a 800 e molto probabilmente col nuovo governo stanno parlando delle pensioni minime di portarle tutte a 1000. Ma, cioè, è una vergogna, sentire questa gente parlare è una vergogna, perché non si parla qui, dice vabbè, me lo danno, un sussidio, rubiglio perché ne ho bisogno, mia madre perché lui vive con la mamma, tra l'altro vedova eccetera, giù in due, mia madre mi sembra che prenda la pensione minima di 450 euro, alla mamma gliela portano a 780 integrativa, no? E noi gli dati la pensione di 1000 euro, no, dell'anno di integrazione, e ho fatto la domanda al paletto di Stadiratta, perché tra l'altro la sua fortuna che non è neanche residente in quella casa, capito? Ma da sempre, non so mai dove vive, a che è un mezzo zingaro, però intanto la prende, andando a prendere per il culo gli altri, è quello che mi dà fastidio. Purtroppo c'è anche questa gente, Clare, cosa vuoi fare? È un macello, tu fatti lo conto, io non mi ho fatto ancora la doccia, ho finito 5 minuti fa, ho attaccato l'antenna, tu ci avevi anche tu. Sì, siamo già una vetta qua e più, adesso fra un po' vado a portare a Filippo, c'era Giulio che è al telefono, c'era Tino, Marco l'abbiamo entrato adesso, Antonello è sceso un attimo dal fratello, c'era Daniele, Eugenio, no, oggi è abbastanza trafficato la sera già. Già ci siamo quasi sempre, poi già mettono appresso. Ascolta, e poi arriva Gianmarco, gli hai dato la seconda mano alla stanza? Sì, già dato, adesso sono pronto a mettere il colore, ma non lo do, capito, perché sabato mi chiudo quella porta, me la faccio a filo. Prendo la porta scorrevole, la piazzo e poi faccio l'altra parte, l'altra parete, perché sennò se io adesso do il colore e poi mi faccio a filo tutto il resto quando piazzo la porta, poi si vede lo stacco, capito? Ascolta, ma poi non hai problemi a mettere i mobili, a entrare i mobili? Cioè la porta passa, no? Sì, è una porta da 90, cazzo, poco, in genere le porte delle camere sono da 80, 70, io sto mettendo da 90. Allora, già va bene, Massimiliano, già va bene. Ascolta, Gaia che colore ti ha detto che la vuole? Gaia ce l'ha già scelta, te l'ho mandata anche la foto. Mi pare che l'ha presa grigia, panna, lilla, verde, verde acido, mi pare, una cosa, comunque ci sono due o tre colori. Anonimo, la parete, che colore ti ha detto di fargliela? Ah, l'ho già preso il colore, claro. L'ho preso lilla, non lilla, è avano me l'ammento, comunque rimane sul tipo rosa pastello, là, chiaro, e poi un verdolino chiaro chiaro dove ci vanno i mobili. Non avevo dubbi che sceglieva quello, per come vedo come è portata lei con i colori, anche le cose che usa, eccetera. Non avevo dubbi, è un bellissimo colore quello. No, la fantasia l'ho vista, è abbinatissimo anche a quei colori, va bene Massimiliano, ottimo per la truppa. Va bene, ok, ehi dai, ancora un altro po' e poi già si è a posto. Marco, vuoi riprendere? Ti è passata la cottura? È passata no, ma non me l'ho mangiato, dico. Dopo io sono troppo disabituato all'alcol, cioè faccio anche brutta figura a me se mi offrono da bere fuori. D'altronde io non mi piace proprio l'assunzione dell'alcol, mi sento vasodilattato, mi aumenta il battito cardiaco, non è per me. E vabbè, e il discorso vale quello di prima comunque. Non va bene. E poi il brutto è che questi soldi di gente che ottiene anche il reddito con metodi poco leciti, è da dove credi che è lo Stato? Da chi paga i contributi? Da voi, da chi paga le tasse, capito? Perché già credi che si stampi i soldi in più? O manco per le balle? Daranno a qualcuno e toglieranno a qualcun altro, cioè chi paga? Stavamo parlando di quello con Giulio. Cioè, come ti permetti a parlare con me, che ho 60 anni e Giulio ha travagliato 42 anni quasi, come ti permetti? Cioè, parla con uno che non ha mai fatto niente, pari a te, ma non puoi parlare con uno che si è fatto il matto da ragazzino lavorando, come può essere Massimiliano, come può essere Giulio, vabbè Giulio ha 77 anni ma si l'ha fatto lo matto, e tanti altri. Cioè non puoi parlare con persone così, parla con i tuoi, con quelli simili a te, che non avete fatto niente. Vita vostra, che è la fortuna vostra che c'è questo sussidio per il mantenimento, eccetera, della soglia di povertà, basta. Ma non fate da un mego di dire, è bello così, a me siete bello così, oh brutto imbecille che non sei altro, ma non sta lì. Infatti adesso quando c'è lui all'edicola vado a caricarmi il telefono, a prendere il giornale da un'altra parte, non vedo più. È sempre Chivi, raccontando i vauri, vendici manno, sempre domande di sigarette, e ce li hai 20 centesimi, e ce li hai 1 euro, sai quanti soldi ho dato a quel ragazzo io, perché per me è sempre un ragazzo, però essendo un poveraccio non faceva niente, a volte stava lì alla farmacia, magari io passavo, avrai un euro, 3 euro, avanza, ciao, me ne andavo, tante volte mi trovava sempre 50 centesimi, 1 euro, però sempre dati, avrai non piglia manco un centesimo, da me, nuda, ma hai fatto una gaggada. Dai, devo chiudere, ci sentiamo. Ciao Marco, se ci sei ancora, Franco, se c'è ancora l'ascolto, Daniele, mi sembra che è entrato Massimiliano, ciao Massimiliano, ben ascoltato, ma devo chiudere, dai, devo uscire un attimo da casa, per cui ci sentiamo domani, io qua. Ci prendi pure, scusate, dai, se ho dimenticato qualcuno. Ci sentiamo le prossime. Ci prendi qua. Ciao a tutti. Ciao, giù, dai, ci aggiorniamo domani. Io intanto un altro passaggio, Massimiliano, per andare a farsi la doccia. Io lascio un attimo a Marco, se rientra Antonello io vado a portare il cane. Vai Massimiliano. Sì, dai, ciao, saluto a Giulio. Una buona serata e buona continuazione, dai. Rilancio a Marco e anche io vado a farmi la doccia, claro. Al limite ci aggiorniamo dopo a Motozappa. Ci sentiamo, ciao Marco e tutti i componenti del canale 10, no? Avanti Marco. Ehi, ti volevo chiedere Massimiliano, ma tu guidi proprio la ruspa, l'escavatore vero e proprio, tipo quello che usano nelle cave? Sì. Quella cosa l'ha fatta mio zio negli anni 70, no? perché abbiamo ormai la cava in abbandono a Florinas, la cava di sabbia, che poi vabbè si è un po' esaurita, però può essere un motivo, no? Ma mio Dio già diceva che si stancava, che era stressante, capito? E poi è mollato tutto. A parte che gli hanno fatto le scarpe con la cava di Florinas qui in basso, che dava già la sabbia pulita, cioè ci aveva già, e quindi estraevano la sabbia, lavavano la sabbia, avevano il camion loro per portarla fuori. Più lui era un po' così, per servizio di famiglia. E vabbè, è mollato tutto. E la palla di sabbia l'aveva trovata a nonno che stava affondando in mezzo alle sabbie mobili. Lo sai in cava, perché quando piove lì diventa una palude, proprio stava affondando. Hanno voluto salvarla, non so, tirandola con quale mezzo, casino. Lo so, la conosco quella cava, bene pure. Ma io faccio tutt'altro, non faccio lavori di cava. Il lavoro in cava ci mette anche un bambino, tocca anche un bambino il camion per portare la sabbia, capito? Lì. Va bene, dai, ci sentiamo. Avanti Claudio, io non riprendo più, Ci sentiamo nel prossimo, ciao. Ehi Massimi, ci aggiorniamo a zappa. Marco lì, ti chiedo permesso di QRX, dai, 10, 15 minuti, 20 minuti, altrimenti ti chiamo dopo. Sei in agguato, dovrebbe rientrare Antonello, forse anche Tino. E Daniele che era al telefono, ok, ci sentiamo dopo. Claudio, dai, sono già le 8:05, poi io devo smaltire i fumi qua dalla bevanda sbagliata. Dai, ci sentiamo domani. Ok, dai, fai tutto quello che devi fare, poi già ci sentiamo domani a un orario più decente, dai. Mi sdraio un po', che mi gira la testa. Ok, ciao, buona serata. Chi me? Mi c'è Daniele, dai, se vuoi fare due chiacchiere già ti passo. Daniele, torna a portare il cane, ci aggiorniamo dopo, ok? Ciao a tutti. Ehi, Claudio, fai pure, già sono qua sempre in ascolto, dai. Però non so chi arriva, sto qua. Non lo so, dovrebbe rientrare anche Tino dopo, dai, ma già salgo subito io, a dopo. Va bene, Claudio, è acceso qua, quando vuoi fai chiamata? Marco. Oh, Daniele, ehi, dai, sono ancora qua, dai, stavo ascoltando i saluti, ehi. No, dicendo, nel mio caso, siccome io, vabbè, sono stato sempre un po' fisicamente non... Salute cagionevole, non forte, cioè devo fare roba d'ufficio. Siccome il reddito di cittadinanza è comunque subordinato all'accettazione di un lavoro, cosa che io non posso fare, a meno che proprio non sia roba d'ufficio o bidello. Io dico che... non credo di averne diritto, ma anche se l'avessi, quelli sarebbero soldi rubati, perché sì, mi prende soldi vari mesi, poi rifiuto il lavoro una, due, tre volte, e non va bene, non è nemmeno corretto quello. Poi vabbè, se li fanno, pigliali a futtidini, capito? Poi al sud non ne parliamo, tipo Campania, Calabria, lì vivono di questi espedienti, capito? Non dire che campano sulle spalle i lavoratori, mi. Cava, io stavo dicendo mi poc'anzi con Claudio, e purtroppo io sono stato costretto a fare queste tre operazioni, tra re e reis e di cittadinanza, per il semplice motivo che da quando hanno introdotto tutte queste storie, come si dice, quando entravo in disoccupazione mi davano il periodo che ho lavorato e poi pace bene, dovevi rivolgerti agli ammortizzatori sociali, diciamo, alla retroinclusione, queste cose qua, capito? Mentre anni precedenti potevi continuare a prendere la disoccupazione, poi proseguire la disoccupazione e tutto finiva lì. Invece adesso sei classificato nella fascia dei poveri. Lì ci sono, sì, è tutto un controsenso alla fine qua, leggine, capito? Io purtroppo quando potevo lavorare ho sempre lavorato in nero, detto papale, per dei farabutti che volevano sì il libretto di lavoro, lì prepararci il sedere in caso di controlli della finanza. Tutto lì, però poi non risultavo mai, risultavo in nero ab eternum, capito? E vabbè, che te devo dire? E purtroppo è un macello, chi lavora saltuariamente è il più penalizzato. si lavora saltuariamente, non periodo, sai, perché ormai lavoro fisso, anche lo statale è manco più sicuro quello, capito Daniele? E quindi ci sono i lavori, nei periodi in cui lavori, in cui non lavori, in cui sei coperto e in cui sei anche scoperto. Io grazie a Dio già non ero per la famiglia, quindi niente figli a carico, niente moglie, niente anche ragazze con bambini a carico, no, per quello andavo blindato, capisci a me, non volevo problemi, cioè sapendo anche il mio stile di vita non volevo incasinare la vita di altri, non volevo problemi per conto mio, quindi sempre scafandrato, no? Già hai capito, no? Un casino, Marco, un casino hanno fatto qua, ci hanno lasciato tutto come era. Avesse introdotto queste leggi, però per gente proprio che ne ha bisogno, cioè alla fine molta gente poi viene anche penalizzata, io prendo sempre il mio caso, stato penalizzato, perché ho perso e sto perdendo una barca di soldi. Lei purtroppo, ti ho detto, manco il lavoro statale è quasi più sicuro, perché mamma mia, cambi sede. Non dico fusioni, perché quelle avvengono forse più nelle aziende private e alleggerimenti del personale, come spesso fanno, no? Cioè, da due aziende ne fanno una, però con la metà dei dipendenti, capito? L'altra metà la mandano a casa, cose allucinanti. Certe volte, infatti io lo dicevo già la prima, la cittadinanza va a chi non ha nulla, non possiede nulla, non... Chi davvero non ha niente, chi non può campare, chi non c'ha casa, e noi grazie a Dio la casa di proprietà ce l'abbiamo, che quello influisce, e vabbè, d'altronde siamo lontani dall'essere un sistema perfetto, ma nemmeno in Germania credo che siano perfetti, fotti dimmi, sembra il paradiso, ma poi non è così anche in Germania. Ci saranno anche lì problemi interni, come in tutti gli stati. Non esiste lo stato perfetto, no? Che possa accontentare tutti, che possa mettere tutti in condizioni di non lamentarsi, diciamo. Non credo che esista. Infatti, no, io ho visto un servizio su quella trasmissione di Rai 1 per quanto riguarda la Germania, che lì c'è una specie di reddito di cittadinanza, soltanto che che poi ti mandano a lavorare, addirittura ti mandano a fare tipo spazzina, a raccogliere le foglie a 1 euro al giorno, pensa a due, ti fai 8 ore di lavoro e poi ti pagano l'affitto e tutte le cose e poi ti danno una sorta di carta, se per dire ti si guastano l'elettrodomestico o qualunque cosa, tu vai in questo centro con questa carta, ti presenti, loro ti danno l'elettrodomestico in cambio di quello vecchio, è tutto un riciclo, in poche parole, capito? Ehi, guarda, poi vabbè, l'Italia è un paese messo male di suo, Daniele, casini, mafie, proprio gente che non gliene frega niente, adesso non vuole insistere, il sud, già è vero che lì c'è molta gente che ci marcia con queste cose, va bene, e quindi, beh, sono un po', te l'ho detto, in giro un po' la testa. A parlare nelle mie migliori condizioni, ma sono il primo a dirlo io, cioè se io so già che non potrò accettare un lavoro a casa, a meno che non mi mettano dietro una scrivania a rispondere al telefono quale genere, non lo so perché questa cosa, poi tanti medici nostri non ci azzeccano nulla, non sanno diagnosticare se c'è o non c'è questa stanchezza cronica, questa sofferenza muscolare. Allora, mi tengo quello che ho, però non voglio nulla. Poi da uno stato così è meglio non chiedere niente più del stretto necessario, tipo al limite qualche medicina dovuta, sai, gratuita, che tutta roba poi che potrei anche pagare di tasca, di roba economica, però siccome ho avuto quella patologia ne ho diritto, vabbè. Ma è roba che prendi una volta al mese pure, cioè. Niente che metta in ginocchio la in ginocchio l'economia italiana, mi. Ecco. Voto d'appoggio. Vabbè Antonette, ci hai fatto i mazzi di redditi di cittadinanza? Avevi poi chiesto cosa ti risulta a te? Hai diritto o non hai diritto? Cosa avevano detto? Domani mattina te lo faccio sapere. Domani mattina, anche perché devo andare, ma tutto a Monsalvato, dopodiché vai alle poste, quello che c'è vicino, al limite fai, non devi fare nessuna fila, basta che ti porti il codice fiscale e la fotocopia delle tua e non c'è nessun problema, è fatto, e i cittadini, capito? Perché ce l'ho già all'inizio, immediatamente ce l'avevo già avuto, capito? Quindi a un certo punto non fai altro che avere, dagli più che altro alle poste la fotocopia del codice fiscale e poi il resto, capito? Io l'ho fatta oggi, mi pompo, buonasera. Ciao, buonasera, ben sentito, anche a te. Ma io questo oggi, la verità, alla mezzogiorno e mezzo alla una, mi ha detto così a me, c'erano due persone, dice portami domani mattina, dice la fotocopia, dice della carta d'impacco, dice il fiscale, intanto dice in pratica il foglio dice è già stato mandato all'INPS. Quindi può farlo chiunque, può farlo anche Marco se lo vuol fare, se non lo vuol fare Marco, boh, non lo so, questo va a fare il suo a un certo punto. Allora come faccio le basi sociali e faccio il foglio ISO, eccetera, e c'è una poca roba da fare, comunque sia. A me l'ISO non me l'hanno chiesto, non ci vuole alle poste il foglio ISO. No, perché c'hanno già tutto all'INPS, capito? Infatti fai velocissimo, per un quarto d'ora, 20 minuti hai fatto tutto, poi trasmettono tutto l'INPS che c'ha già i tuoi dati, ISE e tutte cose. Tanto l'abbiamo fatto a gennaio, trasmettono, verificano i dati e se tutto va bene già colgono la domanda. Finito lì. Esatto, sì, quello che voglio dire, infatti, così mi hanno detto stasera. Ah, quanto voglio dire, ma è così. Magari Marco la penserà diversamente, finché non ci mette il muso dentro, il discorso è quello. Comunque sia, vedi tu Marco cosa vuoi fare a un certo punto. Io lo sto facendo, se tu non lo vuoi fare, tappa con la persona di tua madre, cosa vuoi che dica io? Antone, io l'ho espresso poco fa, il mio modo di pensare. Qua c'è casa di residenza, il reddito che sono sì, a carico di mamma, supera i limiti annuali. Vogliamo aggiungere che c'è qualche terreno di contorno, che non servono a niente, però ci sono. Antone, io non è che posso chiedere la residenza, far finta di risiedere altrove per farmi vedere nulla tenente e povero in canna. Non funziona così. Poi te l'ho detto, quello è subordinato all'accettazione di un lavoro, perché dopo 8 mesi ti chiedono di fare un lavoro, io sono fisicamente a terra, a pezzi, non potrò lavorare, quindi so già che quei soldi saranno rubati nel mio caso, se io lo accettassi, se mai me lo dovessero dare, sarebbero soldi rubati che poi tolgono dalle tasche di chi paga le tasse. Cerca di capire, io non voglio fregare niente che non mi sia veramente dovuto, se capì, dai Daniele. Beh, effettivamente ciò che stai facendo adesso, la verità è quello che ti sto dicendo io. Perché ciò che, cioè, tu ho capito che ragioni bene, il discorso è quello, ma ragioni normale anche, cosa ti posso dire, i rumeni, i sassaresi, quelli che ti sto dicendo, qualcosa del genere, che ci ha fatto Maserati, hai capito? Che prende, si presenta al di piano di sud, hai capito? Il discorso è quello. Il discorso è quello lì. Tu ancora non sai come stanno le cose. Il discorso è, tu ragioni a un certo punto e io lì te lo ragione. Il discorso è quello, ma se tu scopri una cosa del genere, che ci sono tanta gente che truffa lo Stato, lo faresti anche tu. Il discorso è quello. Daniele già lo sa, quindi a un certo punto, non lo so, vedi tu, fa come ti piace, noi ti stiamo dando una dritta, poi vedi tu lo devi fare a un certo punto. Daniele, dimmi tu, quanta gente c'è che ha la moto, c'è macchina grossa, eccetera, eccetera, va di là, si dentro il pacco, la mattina, per Mercedes, eccetera, eccetera, va di là, si gala a Parano, ma no, due pezzi no, un chilo alla volta di gala a Parano, fatta a spicchi, hai capito? Lì giù a... Nessuno si fa fare i denti, non so altro, è gratis. Il discorso è quello. So che tu ci sei buono, come non lo sono io addirittura. Ma è proprio così. Le cose stanno così purtroppo. Non si possono fare niente. È così, Antone, è così. Basta guardare qua in zona, se sarei molto lontano, c'è la gente che c'è che fa queste cose. Eppure lo sanno, hanno bisogno, vanno lì ogni mese e buscano la porta. E ottengono, capito? E fanno carte false pur di prendere. Vado, ehi, allora. Ehi, Antone, io già, quanto capito, non le ho detto, ma... Cioè, tu mi stai dicendo, Antonè, che siccome Mezza Italia truffa lo Stato, come chi ha Ciame Chinoni, chi ha... Me devo truffare anche lo Stato, così è. E quindi rubiamo tutti, e l'Italia è un paese di ladri, come dicono in Europa e anche fuori dall'Europa, mi dispiace. Ma non... Così come non ero d'accordo per quella storia di andare... Come ha detto il Gran Padano, di andare lì in chiesa a chiedere il pacco per quei pacchi lì, il latte, il pane, quelle cose che servono per chi non ha niente. Noi il cibo lo buttiamo, Antonè, qui a casa il cibo lo buttiamo. Quindi non posso andare in chiesa a tirare. E poi il discorso, cosa vuol dire? Io già dire a futti, lo fanno tutti, non va bene. Invece nel caso di Daniele, che lui può lavorare, lui si può prendere il reddito di cittadinanza perché è un suo diritto. Poi quando lo chiamerà a lavorare, andrà a lavorare, cosa che non posso fare io. E non c'è altro da spiegare, Antonio, hai capito? Io ti ho capito quello che stai dicendo tu. Il discorso è questo. Se tu mandi vari documenti a un certo punto, se vengono accolti, il discorso è quello lì, hai capito? E poi ti hanno quello che ti devono fare, il discorso è quello lì. Poi non lo so, vedi tu cosa vuoi fare a un certo punto. Io non lavoro solamente perché non ti manca tua madre, perché il giorno che ti manca tua madre, se fai questo discorso qui, guarda, hai sbagliato forte, il discorso è quello lì. Pensa in seguito, non pensare adesso, pensa in seguito, il discorso è quello lì. Perché ho fatto sempre così, come l'ha fatto anche Daniele l'ha fatto così. Se gli manca la mano da Daniele, non sai come si trova Daniele, in mezzo alla cacca si trova. Quindi a un certo punto ha voluto fare, si è abbassato anche lui, il discorso è quello lì. Devi, cioè, non devi pensare cazzo di abbassarsi a chiedere qualcosa, se è una vergogna, non è assolutamente una vergogna, per niente, anzi, c'è un privilegio, c'è gente che ha Sassari, che c'è la macchina, che va a tirarsi la roba dai preti, addirittura anche, dove c'è la questura, si ritira il pane, si ritira il coso, poi va alla taloncia, dove c'è la chiesa, si tira il parmigiano reggiano, ma no, due pezzi no, a chili, e poi se lo vende, il discorso è quello. E allora se non ce lo mangiano, quello è ancora peggio, ritirano e ce lo vendono, sì, ma questi sono... Non va bene, Antonio, te l'ho detto, noi il cibo lo buttiamo e poi mi riassumo tutto in una frase. Io non ho diritto a reddito e cittadinanza, punto. non ho diritto. Vuoi che ti dica che l'abbiamo chiesto, a me o niente, non ho diritto, non rientro nei parametri. Ecco, fine. Non posso nemmeno figurare di abitare in fantomatici monolocali, far finta di essere solo e moribondo, perché non lo posso fare, perché fanno accertamenti e poi c'è la denuncia, la truffa e i danni dello Stato, e te li fanno restituire i soldi in un modo o nell'altro. Hai capito? Daniele, digli qualcosa, che Antonello è monodirezionale come discorso. No, vabbè, se non rientro altro paio di maniche, però io ripeto, l'avrei tentata. Si è informato bene, avrei spiegato la mia situazione e poi ciccia, capito? Tanto guarda, poi vabbè, pure se chiamano a lavorare o da succedere o da non succedere, loro già sono convinti, ma qua non lo so come, dove ci metteranno a lavorare, loro lo sapranno. Ehi, Antonè, a proposito invece di chi campa dalle toccatine, no? Che ti toccano il paraurti con la macchina, subito collare, no? Cioè, simulano di avere i dolori al collo, si fanno pagare 3.000 euro, ci sono anche avvocati che ti spingono a farlo. Ci sono avvocati che ti spingono, il tuo avvocato ti spinge a farlo e ti dice, simula, ti fa male al collo, poi 1.000 euro a me, 2.000 euro a te, capito? Gli avvocati, poi te li raccomando, dovrebbero abolirli, gli avvocati, sono in più intralazioni delle intralazioni. E ho finito qua la parentesi. Secondo me, vabbè, come ti dica, Marco, fa quello che ti pare di piace a un certo punto. Però non ti la metto. Daniele, mi conti. Ciò che ti abbiamo detto noi. A un certo punto, finché ti vado a male, tu sei da qui. No, te mai, ci va più. L'importante è che non fai come ha fatto Roberto Bellicabelli, di cosa è quello. Quello è un diavolo, guarda. Meglio che, guarda, lo fai adesso una cosa del genere. Che ottieni ciò che ti, in pratica, ti leva lo Stato, il discorso è quello, capito? Come a me, come a Daniele e come anche agli altri, il discorso è quello. Sì, vabbè, però tutto si rifà alla frase che ti ho detto, che io non diritto. Abbiamo, lo so già a me. Poi, mi sto allenando, scusate, che ti ho detto che non sono, ho la testa, sono tutto in fiamme, per colpa di quella, di due bicchieri di birra a 12 gradi, da quanto sono astemio. Ma mi sto allenando, allora Daniele riprendi tu, sono fuso. E niente, io altro, e poi sto sempre lottando per quell'altra storia del re che mi hanno tolto, per esempio quel famoso assegno familiare che è arrivato, del bambino. No, mi cavo piede, ormai la guerra è persa, non so più cosa cavolo fare. Ora me l'hai perso, già lo sai, quindi a tutti dinni. Fregatene, fregati voi se la bia in culo a un certo punto. Quindi fai quello che devi fare. Fai il corso, se te lo è bene, se no non si la piglia in Napoli, questo è quello lì. Però a un certo punto, non lo so. Marco, la giornata così, cosa devo fare io? Possiamo fargli a Marco, guarda, possiamo legare a un palo, quello che è, gira, hai capito? Perché in seguito si troverà male, lui non ha ancora capito cosa si trova a 5, 6 anni, 7 anni, quello che è. A un certo punto, quindi sto lì, vabbè, lui ha detto che voleva stare così, questo è così, a un certo punto. Io mi auguro fra 7 anni che non mi dica, cazzo, Antonio c'aveva ragione, eccetera, eccetera, devo fare quella domanda, eccetera, tra là e tra là, a un certo punto. Ma noi, vedete, ci teniamo, però. In pratica il re e il re, che si chiama normalmente, e basta, nessuno non chiede niente, basta fare quella domanda e c'è i soldi ogni mese, sono 400 euro, quindi figurati tu, Marco, basta che tu risulti in pratica ospite a casa di tua madre, come ti ho detto io l'altra volta, mi chiamavi così, e invece, vabbè, ah, come ti pare di piacere a un certo punto, Giuseppe ha fatto così, Giuseppe Domicino, ha dichiarato quello e si ritira 400 euro ogni mese alla faccia tua, e lui abita a casa della madre e c'ha 200 metri quadri l'appartamento, figurati tu. Ascolta, ma la madre di Leoncino quanto prende di pensione, grosso modo si può dire, più o meno di 1000? 700 euro di pensione prende. E qua siamo oltre 1000, c'è una soglia oltre la quale, cioè io quando avrò diritto mi prenderò quello che quello che sarà di diritto, finché non ho diritto non prendo niente che non mi sia dovuto, basta. Io non sto ragionando male, cioè, poi aspettane, ma anche se riuscissi a ottenere questo reddito di cittadinanza, tu credi che 800 euro per pochi mesi mi salvino da un'eventuale dipartita di mamma? 800 euro per pochi mesi mi salveranno per tutta una vita? No, non esiste. Lasciamo stare. Diciamo, la colpa mia è stata quando potevo lavorare in nero. Poi mi sono grattato abbondantemente le palle, perché a me piaceva bighellonare, piaceva stare così a godermi la vita. Diciamolo, poi in vino Veritas, in birra Veritas è uguale, il grado alcolico c'è in circolo, quindi... Quindi io non faccio ragionamenti lonfi. Ho detto, Daniele ha diritto, ma può lavorare, quando lo chiamo a lavorare, lui inizierà a lavorare, quindi lui ha diritto al coso. Il mio discorso è diverso. Daniele, faglielo capire tu, perché dice, Antonello è... Vabbè, a parte che sta uscendo Saturno, Antonello, quindi un po' lo capisco, un po' no. Vai, Daniele. Se è così, allora non ci rientri per reddito, Marco. Da quello che ho capito è... Sei fuori dalla soglia massima, capito? È un bel problema, non puoi fare neanche nel re nel race, perché ho subito abbondantemente il tetto massimo. Aspetta, due minuti, se lui dichiara che in pratica è uscito dalla madre, la questione cambia, lo sai anche tu, no? Sì. Sei così un altro paio di maniche, Antonè. Sei così, sì. Però se lo fa adesso sicuramente gli verrà bocciata, perché per loro è una sorta di truffa. Se l'avesse fatto qualche mese prima, allora le cose sarebbero già cambiate e adesso avrebbe potuto fare tranquillamente. Ma comunque c'è sempre tempo, perché so che ogni sei del mese la puoi rifare la domanda del reddito di cittadinanza. E quindi, come ci ho ragione io, ma se lui è tonto, se tu del fumo è tonto, a un certo punto deve dichiarare che lui è ospite della madre, eccetera eccetera, e quindi gli tocca di diritto, come è successo anche con il re e il re a un certo punto. Ma siccome non lo vuol capire Marco, a un certo punto, questa cazzo devo dire secondo te? Vedo lui, se lui vuole stare così, che stia così, a un certo punto. Ma perché mi chiede a me fra 5-6 anni, che mi dica, Antonè, sono un coglione, sono un bastardo, c'avevi ragione tu. Allora io dico, ascolta, vaffanculo. Cosa devo dire a un certo punto? E tu che fai le domande, quando mai le domande non ci sono più. Tutto lì, il discorso è quello. Io l'ho sempre detto, l'ho detto da 2 anni fa, non uno solo, da 2 anni fa gli ho detto di fare questa domanda, prima del re e poi del re. E gli toccava, bastava dire che lui era in pratica ospite della madre, eccetera eccetera, e lui no, non gli fregavo niente, allora basta, cosa devo fare a un certo punto? All'ammazza. Daniele, tu che ne sai di più, quali sono i requisiti per questo race, quello che è, per curiosità? Guarda, niente di più e niente di meno di quello del reddito di cittadinanza, devi possedere macchine oltre 1.600 non immatricolate negli ultimi 2 anni, moto sino ai 250, e poi basta avere il reddito, non superare il tetto del reddito che hanno imposto loro. E niente di che, marche, queste cose qua, poi il resto è uguale al reddito di cittadinanza, né più né meno, cambia la dicitura e basta, tanto le cose sono lo stesso, anche quando tu firmi la clausola con RIS e stipuli il contratto, loro ti possono chiamare lo stesso a lavorare, però mi hanno detto, dove l'ho fatta, che è impossibile che ti chiamino, perché se dovessero assumere tutte le persone che hanno fatto domanda di Red e RIS, tra assicurazione e cose del genere, ciascuno di sotto, quindi prendi i soldi e non ti chiamerà mai a lavorare. Va bene Antonio, dai, che poi ti ho detto, c'ho il cervello che fuma. Claudio aveva detto che sarebbe rientrato, vediamo se è rientrato. Claudio, ci sei? Magari è andato a mangiare. Va bene, per cambiare discorso, Antonè, questa radio si è di nuovo fermata. Non stanno più funzionando le modifiche. L'ho lasciata spenta, non ho toccato niente. È di nuovo morta. Non vedi che a posto, non ti preoccupare. Sei tranquillo. Ancora tutti qua siete. Guarda, c'è una persona che sta chiamando che è in basso, forse Alghero, chiamalo. Ma anche a Giuseppe, non sento io, arriva Santiago 3 qua, deve avere qualche problema all'antenna, arrivava 9 prima. No, non era lui, credo. Vabbè, Claudio. È rientrato, sono rientrato adesso scendiamo. Sì, Marco, anche tu però... Cioè, sono sempre io quando Antonio ti dice queste cose, sempre. Ci sono sempre io. Quante volte te l'ho detto? Prova a farle queste domande, prova a farle. Tanto non hai niente, non hai niente. Un sussidio, qualcosa te la danno. Perché non le fai queste domande? Cosa devi temere? No, temere nulla, però, insomma, se i requisiti ci sono, non dico reddito di cittadinanza, perché con questa solfa che si ospita dal genitore, ci stavano marciando milioni e milioni di italiani, tutti del sud. Shalom del sud, mi. Sì, ma non c'entra niente, cosa c'entra? Antonello non ce l'ha la casa sua, eccetera. Se ti spetta te lo vanno, se non ti spetta non te ne vanno, Marco, però Antonello ti ha detto 1000 volte di farle queste domande. Ti vogliamo dare 300 euro al mese? 300 euro ti campi e non rompi le palle a tua madre, capito? Hai ragione Antonello, te l'ho detto un sacco di volte, anche in mia presenza. Anzi, quando ti dici la danza ti pagano anche il mutuo. Tutto. Lo so, ma se lui per assurdo non le dovesse aspettare di cittadinanza, che le danno un sussidio come avevano dato Antonello, come penso che diano anche Antonello, certo te li prendi, perché li devi lasciare a loro? Scusa, non è così Antonello. È così, cavolo, ma li danno pure agli zingari, cavolo, che hanno macchine contro macchine e vi prendono su da tutte le parti. Pensa tu. Ma Marco, non so, io l'avrei fatto, giusto ti ripeto, per essere un 50% indipendente, avanti, tanto lo so, è tornare poi da sempre, la paghettina, eccetera, non ti fa mancare niente. Però se ce li hai i tuoi dipendenti che ne chiedi meno a tua madre è meglio, no? Antonello, Antonello è una vita che si è sempre campato da solo, l'ha sempre fatto, le cose che aspettano le danno, le cose che non aspettano è chiaro che non ti ridardini, ripeti Antonello. Sì, comunque sia è così, sto mangiando adesso, comunque sia. Le fare la domanda e basta, non fare nient'altro. Non ti costa niente, non è che ti costa molto. Cosa vuoi di più? Ogni mese va in banca, 400 euro, cosa vuoi di più? Vulcano, oggi tutto. E si compra la banca che vuole, per dire. vabbè, se c'è diritto di qualcosa bene, se no già mi devono dare già 2,90 per questa storia dell'operazione e questa cosa dell'ipofisi, questa piccola manomazione parziale, no, che poi non, quella è il meno, no, io fisicamente ero già messo così da prima, ben prima, non c'entra niente quello. Cioè non è che poi manca distribuiscono lì a furia dura, se no ci sarebbe tutta Italia che dice, beh, ci grattiamo le balle tutti, tanto ci paghiamo lo stesso. Vabbè dai, fine del discorso. Detto ciò chiudo, sono, mi sta venendo anche la biocca del dopo pranzo. E anch'io, beh, ragazzi, che porto la cena, beh. Comunque un discorso molto interessante e molto logico quello che abbiamo fatto oggi. Ma io dico che a chi spetta, chi è povero, chi ne ha diritto, chi ha lavorato, chi non ha lavorato in senso buono, insomma a chi spetta è giusto che lo Stato dia una mano, a chi non spetta può andare a cagare, capito? È inutile fare i truffaldini, fare le persone vigliacche per avere questo reddito di cittadinanza e poi magari non battono i soldi perché sono tanti e li tolgono ad altri che hanno lavorato una vita, non va bene così. Vabbè, detto ciò io vi saluto, grazie delle due chiacchiere come sempre, a domani se coincide, ciao Daniele, Marco, Antonello e chiunque fosse in ascolto sul canale 10. A Giovanni e vado a mangiare, passo e chiudo. Ciao Cla, buon proseguimento e buon tutto, dai, buona carica. Ci ascoltiamo domani se coincide. Riprendi Antonello. Sta papando Antonello, ciao a tutti. Sto mangiando. Siamo fa poco, dai, 2 minuti. Siamo di mangiare. Va bene, dai. Ne approfitto anch'io che chiudo, che anche qua è pronta la pappa. Buon proseguimento a tutti, dai, a domani e buona serata. Ciao, ciao. A dopo, un po' per domani. Siamo dopo.